Ripartiamo subito dall'ultimo momento in cui vi abbiamo lasciati, ovvero siete nella centrale di Oclica, state andando via dal nucleo verso l'uscita più vicina, quando Rodvold, un bambino ai vostri occhi, una bambina ai vostri occhi, un'entità umana, non meglio definibile, vi sbarra la strada e con la sua voce carina vi dice che non potete andare via. Voi lo ignorate, la ignorate, insomma, ve ne fregate e vi ritrovate in un labirinto. Non è molto adatta questa musica al labirinto, però ce la cogliamo. Tranquillo, Vi ritrovate in un labirinto di muri bianchi, uguali a quelli che compongono la centrale. E vi ho lasciato qua e vi ritrovo qua, quindi vorrei sapere cosa volete fare. intanto voglio chiedere quanto è grande questa, cioè è Sì, claustrofobico. è grande un terzo se non meno del corridoio in cui eravate prima. Allora io inizio ad agitarmi e dico: oh, cioè io volevo andare a lavorare, oh! Cioè io mi sono stato trascinato qui, adesso mi chiudi la strada. Almeno portami di nuovo, fammi vedere la strada per riportarmi allo studio, no? Cioè, e inizia a nervosirmi parecchio. Senti uno schiocco di dita e nella collezione di muri che vi circondano si forma effettivamente un percorso con tanto di targhette con scritto per Erindor. E io, gentile, vado. Pensavo di dover litigare di più, ma evidentemente No, io non. voglio Vabbè. solo che non usciate dall'edificio. Ah, me lo dici, me lo fa piacere. No, ma cioè, era stato abbastanza onesto sull'unica cosa che gli interessava era che non uscissimo dal pinche edificio. E voi avete voluto fare una cosa a tutti i costi. E Vabbè, grazie, a posto. en passant, Io avete appena. Perfetto. sfregandomi le mani nella mia testa, ritorno allo studio. En passant, avete appena sentito il rumore di tubi, eccetera, eccetera, da dentro i muri. Quindi realisticamente manca un quarto d'ora alle 3, che è il momento in cui potete andarvene. E voglio sapere cosa fanno gli altri due. Ma il mio piano era anche dall'altra volta aspettare. Posto. Cioè, mi siedo per terra e aspetto. Fine, cioè non ha detto che bisogna aspettiamo Ivan? 15 minuti, io li aspetto. Ho bisogno di recap. Ok, il recap è: siete nella centrale, non sapete cosa sta succedendo. Cos'era successo prima? Zanzan era stato. Abbiamo inserito il corpo della tizia che c'era prima nella sezione Il della nucleo. magia. Esatto, del nucleo. E Zanzan era stato trasportato, cioè aveva accompagnato il rettore della centrale, il direttore della centrale, il rettore dell'università, è la stessa Nel persona, nucleo. nel nucleo. Non sapete di cosa cazzo hanno parlato. Poi è uscito fuori, tu hai attirato la sua attenzione e gli hai detto praticamente scappiamo prima che questo ti trasformi in una batteria umana. Però ora siete chiusi qua. Cazzo, ma mi fa? Cioè, siamo chiusi in un cubo, cioè. Che Siete chiusi, sì, in un cubo. cazzo Molto. si fa? Seduti, calma, il tè. Seduti, cioè. Avvicinati. Abbiamo cloccato in, quindi questo, cioè. Veniamo anche pagati, veniamo. Siamo anche Ok, pagati. se decidete di aspettare un quarto d'ora, e mi sembra che sia quello che volete fare, Erindor ha. C'è Rox che sta tipo. No, no, no, no. Non dare retta a Rox. Please do not pay attention to the man behind the curtain. Peraltro, guarda col 20 di bianco. Fammi vedere Roll 20. Perché Cosa hai rollato un 10? Scusa c'è? È così. proprio vero, Erika. È proprio quello che. Non so perché hai tirato un D10, però l'hai sprecato quel 10. Il Lo so. nostro caro Erindor va nel suo ufficio, ufficio tra virgolette, è una stanza libera, e finisce il lavoro che doveva fare. Non ti sto a spiegare niente adesso, te lo spiego semmai dopo, perché ci sono loro e loro non devono sentire queste cose brutte. Mentre voi due aspettate un quarto d'ora, parlate, chiacchierate, insomma, fate quello che volete. Intanto interviene. Ce l'ho delle carte, tipo. Sai Se cosa? Hai potremmo. un mazzo di carte, puoi giocare al gioco di carte tipico dei tuoi posti che è Magicant, che è una versione del Blackjack. Sai che mi sa che ci abbiamo giocato. Vabbè, niente, pensieri miei ad alta voce. Ogni tanto Rodwald interviene e vi chiede: ma tutto bene, vi porto da bere, volete qualcosina? Nel senso, qualcosa, sì. Magicamente ogni tanto appare un bicchiere d'acqua, uno snack, capito? Una cosa del genere. Una cosa volante, come si suol dire. Hai capito la battuta? E sono come... Sì, sì. Una sigaretta. Sì, sì, esatto. Sì, sì, tutta roba... Cioè, non sono illusioni, comunque. No, no, no. L'illusione realisticamente è che non vedi il braccio che la poggia. Ok. Ok. Dopo questo conviviale momento... Sentite una voce che per Zan ormai è familiare, quella di un amico praticamente, parlare alla creaturina e dice: ma insomma, cosa stai facendo con i nostri ospiti? Volevano andare via e li ho tenuti fermi. No, no, no, cancella tutto, rimuovi, rimuovi. E magicamente i muri tornano alla loro struttura naturale. L'uomo, di cui credo abbiamo anche l'immagine... Eddie, se ritrovi l'immagine... Non c'era. Mi sa che l'ho prodotta nell'ultima settimana, però... No, non c'era. Mi sa che l'ho prodotta nell'ultima settimana, ma mi sa che non l'ha... Eccola qua, trovata. Credo non sia regenerated. Nel caso, chiedo scusa. Z-Shaffer, non mi ricordo. Z-Shaffer Kaspar. Ok. L'ho messa in Fateless. È il rettore dell'università, eccetera, eccetera, eccetera. Mamma mia, vabbè. Vai basettone. Sì, esatto. Cioè, vai boy buffo. E... Ah, ok, è arrivata una roba che vi chiedo di non guardare per il momento. Ah, era quel famoso... Sì, okay. Per favore, do not pay attention neanche a quello. L'ho vista! Do not. E... Do not. E... Quindi dismissa il ragazzino, che a quanto pare è accompagnato da un'altra persona, una persona stravolta, che ha gli occhiali, strano perché nessuno ha gli occhiali in questo mondo, capelli castani, tutti spettinati, distrutta dalla vita, le occhiaie, è una persona proprio che non ne può più di vivere. E... Come? Vabbè, non ho niente, il mio autoritratto nel gioco... Sì, anche quello di Rox. Vero, vabbè, niente, scusate. E le due persone, il ragazzino viene obbligato ad aprire gli occhi, quindi vuol dire che il suo turno è finito, a quanto pare, e allontanati. E quindi il signore dice: Rodwald, Beatrix, andate, finita, lasciatemi parlare con i nostri ospiti. E si avvicina a voi due e dice: grazie di avermi aspettato, quanto pare ci sono ancora dei problemi con il nucleo. Ora, mi è giunta voce da un uccellino, Ivan, giusto? Bene, credo che tu non sia sotto contratto al momento, quindi le cose di cui parlo potrebbero essere strane. Dimmi, hai visto cosa c'è nel nucleo della centrale? Non tantissimo, cioè ho visto scorto, ma non mi è chiaro quello che ho viso. Io non sono del lavoro, quindi cioè non... Certo, è non stato ho studiato incidente. Queste cose, quindi... No, neanche un incidente, proprio passavo di lì... Ah, ok, ho capito. Bene, allora forse è meglio se concludi il tuo turno, verrai pagato normalmente per questi minuti in più. Puoi uscire pure dalla porta sul retro. Zan ti seguirà appena abbiamo finito questo nostro colloquio. No, ma io e Zan abbiamo preso lo stesso mezzo, dobbiamo uscire... Sì, sì, dico, lo puoi aspettare all'uscita sul cortile. Nel giro di 10 minuti arriverà. Guardo Zan. Come posso dire di no sembrando non sembrando bad? Proprio. Ma guardi, in realtà posso rimanere senza problemi. Cioè... Allora ho bisogno che tu firmi un contrattino in modo che le cose che dico rimangano fra di noi. Ma se mi chiudo, ma se mi tappo le orecchie? No, non credo. È una cosa un po' più seria di così. Va bene, me ne vado. Scusate, sta canzone non c'entrava un cazzo. Ok, questa c'entra invece. Ivan, a malincuore, controvoglia, si allontana dall'uscita che avete già percorso e ripercorso più e più volte. E rimangono solo i miei due personaggi preferiti a questo punto. Zan e il rettore. Mi è giunta voce da un uccellino. Bello. Questa cosa andrà su Twitch. No, vabbè. Mi è giunta voce da un uccellino che c'è stato un morto oggi all'interno della centrale. Una persona ha perso la vita, giusto? No. Sì, una, sì. Esatto. Ecco, io volevo sapere, per caso, tu odiavi quella persona, giusto? È questo che mi è stato riferito, se ho capito bene. Sì, se io non direttamente quella persona, ma... Se io ti offrissi qualcosa di meglio della semplice morte come vendetta per questa persona, che ne diresti, Zan, eh? Quale... Di cosa si sta parlando? Quale sarebbe? Sto parlando di un periodo che potrebbe essere molto lungo, forse tutta l'eternità, in cui questa persona diventa uno strumento per il popolo, ai suoi danni. No, non mi interessa. Il morto mi piace. Va bene, era un'interessante alternativa che mi avrebbe risolto facilmente la problematica di riempire lo spazio vuoto. Puoi andare allora? Anche se stai rinunciando a una gran quantità di mana penne. Sto ascoltando. Vedi? Chiudere la centrale finché non riusciamo a trovare un sostituto ci costerà quanti? 7-8 ore di lavoro? 7-8 ore di marapenni? Che dovremo proprio buttare alle erbacce. Diciamo che io un'ora di questo tempo la potrei anche regalare a te. Stai buono, 3,5. Stiamo parlando la stessa lingua, quindi. Ti offro 2 ore di marapenni, compresa una mana unit. Non ne troverai molte altrove. Accetto. Per paragone con gli altri, ci compri degli edifici con queste robe qua. Numerosi edifici. Stringi la mano... Sì, vedo Rox che sta parlando in muta ed è bellissimo. Stringi la mano nerboruta e vagamente pelosa dell'uomo, che ti dice... Non so dove hai portato il corpo di quella donna. Devi solo riportarmela indietro e l'affare è fatto. Ti verseremo i tuoi manapenni la prima volta che verrai al lavoro. Ovviamente li dobbiamo produrre prima. Aia. Quindi domani, okay. Dopodomani. Va bene. Ok, quindi vi salutate. Vai a prendere il corpo? Sì, tanto non l'ho tirato nell'incenitore, ma l'ho tirato nel cassonetto, quindi... Sì, allora, quello che vede Ivan è che dopo un po', effettivamente, prima del tempo che vi aveva preventivato il signore, arriva Zan, tutto bello contento, e dimmi tu cosa vuoi fare. Mi avvicino al cestino della rumenta, e tiro fuori il cadavere, me lo metto in spalla. Quello che vedi è questo tizio, grande, grosso e scuro, che apre un cestino dalla spazzatura, tira fuori una donna morta, ok, con un buco in testa, e se la mette in spalla, una donna scura di pelle, e entra nella centrale come se niente fosse. Lascia lì, cosa stai facendo? No, hanno detto che gli serve, quindi devo riportarla dentro. Io non lascerei se qualcuno mi dice... Ho bisogno di quel cadavere, non glielo lascerei. Vabbè, ma è un cadavere, cioè è morto. Non c'è di niente. Boh, lascia il cadavere, ti prego. No, mi serve, mi hanno promesso una ricompensa e poi possiamo andarci in questa situazione. Sì, gli riporto il cadavere, che è solo un cadavere alla fine della fiera. Alla fine della fiera, yeah. I don't know what to do. Like... My wife is gonna kill me if I tell her this. Basta non dirglielo. Ma che marito di merda sono se torno a casa e non gli dico abbiamo lasciato il cadavere di questa tizia morta per essere usata di nuovo. Tecnicamente non sai questa cosa. Un marito leggermente più ricco del precedente. È anche vera questa cosa. Se mi dai una parte Guarda, guarda, guarda, il capitalismo come consumatore. Sto pensando all'affitto. Sto pensando all'affitto. Capitalismo. Tu la parte. Allora, Ivan ci pensa moltissimo. Quanto ti hanno dato per questa cosa? E Zanzan non sa contare così bene. Una quantità. Tanto? Io... tanto, ma bastano. Io sono un alfabeta, quindi... Ecco, mi siete trovati. Okay. Tanto così, e fa tipo... Come carabinieri! Molto scemo e più scemo, mamma mia. Facciamo... Ci siamo ritrovati. Facciamo 50-50 e te lo lascio prendere. 50-50 nel mio paese è metà e metà? No, metà e metà... Il cadavere lo sto portando io dentro, se non ti dispiace. Sì, ma... Ma i danni morali, cioè. Danni morali, guarda che non dovresti farlo. Cioè, vuoi che uccida Zanzan? Dai su, vuoi che faccia male a Zanzan? Dico a Bianic. Io non voglio niente, voglio vedere dove andate. 70-30 e la chiudiamo qua. 30 ci paghi, se la compri la casa. Ma se la compri ti compri il palazzino. Entro nella sala... Ma sani principi, entro nel... dove c'è il tizio e gli dico... Cos'è sta storia che vuoi riutilizzare il cadavere di questo tizio? Ok, quindi... Cioè, Zanzan sta entrando col cadavere e tu a piedi. Perché comunque non è proprio lì. Cioè, dovete fare un corridoio per arrivarci. Uh-huh. Ok, quindi arrivate a parlare col rettore... Che è più o meno dove l'hai lasciato. E siete in due. E lui dice... Prima che tu gli possa chiedere qualunque cosa. Ivan, credevo di averti detto che per oggi era finita la tua giornata. Come mai sei tornato indietro? La canovista. Ah. Beh, Zan, visto che sei così muscoloso, portalo fino al nucleo, che farò meno fatica. Zan se ne va fino al nucleo. Prima di portarlo al nucleo, mi può spiegare il perché sta portando un cadavere verso il nucleo? È semplice. Questa donna, come puoi vedere, è una pericolosa criminale. Era, perché Zanzan ha provveduto ad ucciderla. E invece che lasciarla nella spazzatura in cui era stata messa, avrei visto sicuramente i cassoni dove si trovava prima, abbiamo trovato una collocazione più adatta a una persona come lei. Una collocazione che sarà utile alla società. Mm. E quindi cosa succederà al suo corpo? Beh, rimarrà lì. Mm. Come ti dicevo, se non firmi un contratto non posso divulgare altri dettagli per una questione di sicurezza statale. Ok, va bene. Io me ne vado. Cioè, grazie per la chiacchierata. Mi sono fatto un'idea di quello che fa la centrale. Okay. Ci vediamo prossimamente, sì. E... Non è vero, perché lui non è mai in centrale, quindi vabbè. Beh, però nelle cose che si dice, come... Sì, esatto. Rivederci. Arrivederci, è tipo... Ok. Vado da Zanzan e gli dico che magari possiamo mettere qualcosa, cioè usare qualcos'altro al posto di questo. Mi sta venendo in mente che tipo ho un incantesimo per l'omuncolo. L'omuncolo arcano. Sì, poi l'omuncolo arcano vi chiede un chilo di carne, quindi avete un cadavere. E lo trasforma in una creaturina semi-automatica. Una creatura semi-automatica. Volete fare... È una creatura proper? È un animale? È un omuncolo, quindi è praticamente un essere umano con meno diritti. Vabbè, ha senso. Ma sì. Non lo so. Il piano non è così male, se proprio vuoi... Bait and switch. Mi sembra di dover... No, chiedo. Allora, Bait and switch. Ma per quale motivo? Scusate. Vabbè, non ci sono neanche io, però. No, no, non c'è un motivo di essere, cioè. Non volevo desecrare un cadavere. Ti pare divertente, però non volevo desecrare un cadavere. No. Ti ha già pensato Zan. È abbastanza. C'è tu numero di volta. Questo è il. È lì che fa la. Sta prendendo le mosche. Tutto. Vado avanti. Perché le cose devono essere tutte quante. Cioè, sì, boh. Getto le mani all'aria e me ne vado, basta. It's enough. Ho visto abbastanza per oggi. Ok, il nostro amico Zan, quindi, mette il cadavere lì. Il nucleo è ripiazza il cadavere dove stare. Dopo poco arriva il rettore, che sta castando una spell, e ti dice, grazie dei tuoi servigi, Zan, vai pure via, per oggi hai concluso. Ti verranno pagati anche gli straordinari per cui sei stato qua in eccedenza al tempo che dovevi fare. Bene. La porta del nucleo si chiude quando esci e non sai cosa succede all'interno. Ok. Insieme ad Ivan vi rivedete fuori dal cortile e andate verso il centro della città. Quindi potete parlare, potete conversare. Per me potete anche scrivervi per messaggio se volete. Intanto faccio la scena di Erindor. Hai avuto una botta di culo. Una crisi. Ma, sì, ci sta. Alla fine ha fatto la Naya move. Quello che volevamo. Allora, hai avuto una serie di colpi di fortuna uno dietro l'altro. E quindi sei riuscito alla fine a rimanere da solo nella centrale. Probabilmente tutti gli altri sono andati via perché è finito l'orario. Non hai firmato nessun contratto, quindi non sei bound a fare un cazzo di niente. E hai tutto il tempo per ricopiare i tuoi fogli. Molto bene. Quando hai finito questa operazione, tu hai tutto il materiale che ti serve da consegnare a chi tu sai. E quindi sei qua, cioè, puoi fare quello che vuoi. Dimmi tu. Intanto appuriamo che siamo soli, quindi esco piano dallo stanzino, mi guardo intorno e vedo se c'è qualcosa. Vuoto. Ovviamente tu sei al secondo, cioè hai salito un piano di scale, diciamo, e devi quindi scendere le scale e poi andare all'uscita, o quella sul retro o quella principale. Non ho mai fatto una mappa di sta cosa, un giorno la faremo. E andrei là sul retro. Benissimo. Ok, l'unica cosa che mi pareva molto più vicina rispetto a... Sì, sì, esatto. Facendo questo percorso non incontri un cane di nessuno. Proprio silenzio, vuoto, tranquillissimo. Anzi, alcune zone sono pure a luci spente, quindi devi un po' andare, non a tentoni, ma comunque un po'... Sai quando passi da una parte molto luminosa a una buia? Fuori, in lontananza, vedi che Ivan e Zan stanno andando verso la stazione per i fatti loro. Stanno chiacchierando per i fatti loro. No, io sono... depleted, proprio mogio. Mi spiace. Quindi, trascinando le gambe. Li vedi ma non li senti. Poi, li vedi ma non li senti. Sì. Dai che domani fa meglio. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ecco, io sentite quando cerchi di riesci a sentire le conversazioni delle persone, però effettivamente non sei lì come presenza. Quindi io vorrei mettermi a una distanza tale da potersi origliare ma senza farmi troppo notare. Ok, in realtà sentirai che solo Zan ogni tanto fa dei commenti un po', come diceva Bonari, ma dai, è andata tutto bene, ci compriamo casa, eccetera, eccetera. E niente, andate verso la stazione dove prenderete il treno per andare per dove volete andare. Ora, come avrete intuito, l'arco narrativo è finito. Mamma mia, che... Ok, e ora invece passiamo al post arco narrativo e siamo ufficialmente entrati nella sessione nuova. Siete contenti? Esatto. Chiamare Brian. Sì. Puoi aspettare un attimo perché tanto la pausa. Sì, fai pure. Vai. Perché tanto ora andiamo in ordine e partiamo da Zan. Ok. È musica, persona music. In realtà è Omori, però sì. Scusa. Ecco, vabbè, niente, non dico niente. Zan, ora ognuno di voi farà 4 giorni molto velocemente. Poi gli spiego perché. Per 4 giorni tu vai a lavorare alla centrale, non tanto perché sei legato dal contratto, quello te ne potresti fregare, ma per il fatto che ti pagheranno veramente tanti soldi. E quindi è un buon motivo. Durante questi 4 giorni, la persona con cui hai più a che fare è Renata, quella sexy curapica. Secondo luogo c'è il dipartimento, il laboratorio al quale era assegnata Kae, che nel caso non te lo ricordassi era la tipa di prima. Sì. No, eccolo. Ok. Check. E qua svolgi alcune semplici cose di magia naturale. È tornato Rick? Sì. Ok. Tu non torni mai più alla centrale? Beh, decisamente no. Ok, perfetto. No, scusa la domanda stupida. Quindi la tua vita di questi 4 giorni è tu che arrivi al lavoro, Devin Corvi, che è il tipo con i capelli neri, che si lamenta tantissimo fortemente del fatto che un altro stronzo di alchimista che se ne va e mi lascia nella merda, non ci si può fidare più di un cazzo di nessuno, mi tradiscono pure i soliti, questo probabilmente veniva da sud perché comunque al nord non siamo così. Sti discorsi. Timbra il cartellino e se ne va. Esatto. E con Fazzano, e c'è il modo di fare amicizia con queste persone, con Kiel, con... in particolare con Renata. Più che altro perché Renata ti accompagna sempre nella pausa sigaretta, no? Questi bei momenti di pausa. L'unico momento felice della giornata. Esatto. Rox, cagami, grazie. E hai modo di chiacchierare con lei, di fare amicizia. Scopri che, lei fa sto lavoro solo per mettersi da parte i soldi perché la centrale paga tanto, ma in realtà vorrebbe andarsene, le piacerebbe andare in un posto dove non c'è tutta la roba rigida che c'è di qua, eccetera. Vorrei sapere come interagisci. Se vuole venire con me appena mi pagano, a quanto pare uploaded a sto punto, quindi cioè... Mi piacerebbe vedere il resto del mondo, non sono mai uscita da Oclica. E il sud è particolare, cioè quanto ti interessano i mostri di 2,5 metri, 3? Tira fuori la pistola, sono brava, e spara a un uccellino che passava di lì e lo uccide. No, no, ragazzi, ho un'ottima mira. Perché... c'è bisogno. Mi segue quello che strappa le braccia alle persone, non c'è bisogno. Ce n'era bisogno. Fanno schifo gli uccellini. No. Ah, onesto, va bene, te lo concedo. Rimette nella fondina la pistola e dice: sì, mi piacerebbe molto cambiare aria, quindi quando partiamo? Appena mi pagano, se vuoi uscire quando mi pagano possiamo anche andare. Ok, e quindi diventi molto amico di Ren, più che degli altri, che comunque non mi sembra che tu non voglia avere a che fare col tizio razzista, né... No, cioè nel senso, a parte picchiarlo tutti i giorni, no. Esatto, né la tipa KL, quella con i capelli corti, che è un po' strana... Non so se vuoi fare amicizia con uno degli altri, dimmi te. No, altrimenti no, questo è quanto per i tuoi 4 giorni. Cioè, vieni pagato, succedono cose belle, fai amicizia con Ren. Ok. Ren è del nord, tra l'altro. Ren è di Oclica. Cioè, di non Oclica, so se è proprio di Oclica, ma è di Lutes. Ora ti ci guardo, okay, dove... Cioè, dopo ti ci guardo. E ora è un buon momento per chiamare Brian, se volete chiamarlo. Cioè, nel senso, faccio gli altri che tanto sono tipo cose individuali, però appena arriva, cioè, li introduciamo anche lui. Sì, non mi ricordo dov'è di preciso, però è di Oclick. Allora, okay. Erindor, facciamo per secondo Erindor. Dopo gli eventi della centrale, cosa hai fatto? Sei andato direttamente al punto dove dovevi vederti con tu sai chi? Sì, decisamente. Ok, siete in una città dove il treno si ferma, di pochissima importanza, praticamente un posto generico, volutamente generico. Lei si presenta con gli abiti neri classici del vostro stile, capelli con ciocche tinte di rosso, oggi ha questo stile, e col suo modo di fare sempre un po' canti, diciamo. Ti squadra dall'alto al basso e dice: com'è andata? È sera. Beh, devo dire molto bene. Ci sono successi una serie di fortunati eventi. Mi hanno permesso di ottenere tutto quello che ci eravamo promesso e pure di più, se ti interessa. Ah sì? Hai sì, documenti? Ci sono certe informazioni riservate che grazie al fatto che il contratto non è stato nullo per ragioni... per me ultraterrene, Sono venuto a conoscenza di informazioni molto riservate. Affascinante. Posso guardarla? Però intanto partiamo subito da quando ci siamo concentrati. Buonasera. E va bene. Consegno i documenti. Sono arrangiati un po' in modo strano, sai com'è? Non volevo rischiare. Però li ho ordinati in modo che siano abbastanza deducibili. Li decritterò più tardi, voglio solo vedere le informazioni principali. Li sfoglia rapidamente, su certe cose sgrana gli occhi, su altre passa oltre. Chiude i documenti e dice: non l'hai riempito di cazzate, vero? No. Tutto vero? Assolutamente sì, ho perso una serata. Lei sbatte... Per non parlare di tutto il resto. Lei sbatte furiosamente il foglio sulle mani, lo mette nella sua borsa, estrae una mana unit, te la dà e se ne va. La mana unit ha un valore commerciale di un botto di soldi, eccetera, eccetera. In aggiunta ai soldi che ti doveva dare per il lavoro. Sì. Ok. E se ne va. Se ne va, senza dirti niente. Io rimango un po'... Le avevo detto le juicy... Ti ha pagato per le juicy cose. Vabbè, però volevo dargli qualche... Cercare di prendere qualche extra con raccontandole degli eventi accaduti, delle informazioni riservate. Ah, non li hai messi dentro? No, ok. Li ho messi dentro. Ok. Avevo capito così, no. Scusami. Ok, va bene. Per quello l'ho fatto avere la reazione contenuta. Ok. C'era anche, avevo raccolto, se ti ricordi, un sample sì, sangue, sì, consigliato quindi... anche quello? Sì, dai. Perfetto, te lo tolgo all'inventario, hai la mana unit, vale veramente un botto di soldi, quindi tu sei a posto. Man mano che vi faccio sta scena, potete andare a guardare il giornale che ho postato su Telegram, anche se l'avete già fatto. No, in realtà era stato spoiler, quindi non ho visto niente. Ah, ok, grandissimo. Man mano che vi dico. E puoi dirmi brevemente, Rick, cosa vuoi far fare ad Erin nei 3 giorni successivi, durante i quali sei miliardario. Non crede ancora ai suoi occhi, quindi dando il primo giorno torna nella sua camera spagata lì. Fa un enorme... fa numerose docce, fa numerosi sospiri. You got this. È tipo... Adesso, ok, ho tanti soldi, però... Di certo attirerò l'attenzione, insomma, se dal giorno alla notte non passo ad avere una mana unit così. Quindi... Sì, devi trovare qualcuno che te la cambi. È come trovare un miliardo di bitcoin. Sì, va bene, esatto. Trasformami. Fai la quindi... Lambo. E quindi ha vinto il Super Enalotto. Anche. E quindi niente. Super Manapelli. Inizia a informarsi, diciamo. Passa okay. le due giornate a cercare appunto un possibile acquirente. Lo trovi. Cioè, è una cosa che relativamente lo trovi, anche senza canali illegali. C'è gente che magari a un tasso basso te le converte. Ti inculano un po', però ti inculano il 15% del valore, ma te la convertono facilmente. Altrimenti ci sono dei, come si chiamano, dei laboratori di ricerca che non fanno domande. Tu gli dai la cosa, loro ti danno i soldi. Beh, io sarei più propenso per la seconda. Non ho rischiato la pelle per farmi togliere il 15% in le tasse. Esatto. Sono... Il male. Esatto. Fra i soldi che hai dato cash e quella roba lì, hai diverse migliaia, sulle 20.000 monete da parte. Quindi stai messo bene. E vai pure a vedere il giornale, andiamo avanti. Sono indeciso, credo che andrò su Ivan, che è quello che è meno collegato. Quindi, torni a casa la sera dello stesso giorno in cui avete fatto tutte le robe. Cosa dice a tua moglie? Devo saperlo! Allora, ciao! Che giornata! Ciao amore! Dai, è stata proprio una giornata. Non so da dove cominciare. Ti vedo provato. Preferirei andare a letto adesso. Va bene, ti hanno pagato però? Cioè... Sì. Arriva. Arriva lo stipendio, arriva. Oh, allora vedi che ne è valsa la pena. Io ero così preoccupata, speravo che decidessi di non andarci alla fine. Forse avrei dovuto non sarei dovuto non È andare. stato così tragico? Direi. Ma perché non ti sei trovato con i colleghi, con... Direi di no. Ah, mi spiace. Direi di no. Poi l'etica con la centrale. No, ho capito. Pregherò di Rupert, che è la dea dell'economia, quindi dei lavoratori, per proteggerti nei prossimi giorni. Prega, prega. Ok, vai a letto. La prima giornata l'hai sfangata. Cosa fai nelle 3 giornate successive? Sei ancora sotto contratto, dovresti andare a lavorare. Vado a lavorare, cioè, lo devo fare. Quindi la seconda giornata inizia come la prima. Cerco di evitare le domande di Thea perché devo trovarmi. Ok, Sto ci sta. ancora ragionando su quello che le posso dire. Lei non insiste, non fa domande, capisce che stai facendo uno sforzo per la famiglia, quindi non indaga oltre. Quando sei sul treno, vedi il giornale, quindi puoi guardare il giornale. Non è vero perché non sai leggere. Uno dei tuoi amici ti racconta cosa c'era nel Vede giornale. l'immagine, vede la Dell'immagine. colomba, Sì, esatto. vede. Guardo l'immagine sul Sì. giornale. No, diciamo che uno dei tuoi amici, c'hai tanti amici nel background, ti racconta le notizie sul giornale mentre stai andando a lavoro, mentre fai una pausa, insomma. Quindi fai quello che vuoi. E ho bisogno di sapere cosa fai al lavoro. Al lavoro c'hai Zanzan, che ormai lavora nel laboratorio, ma passa più tempo a fumare in cortile con Ren. E poi tutti gli altri NPC che ti ho presentato, quindi Rodvold, Beatrix, lo Shunare, la guardia Shunare, la guardia bionda con gli occhiali da sole, Lydia. In realtà nella centrale lavorano circa 700-800 persone. Tu frequenti solo il laboratorio perché ci sono i danni e il pannello di controllo perché ci sei passato, ci devi passare per arrivare lì. E il resto della centrale non hai molto a che fare, quindi non hai molti amici, molti agganci. Se vuoi interagire con uno degli NPC, vuoi farti degli amici, eccetera, dimmi, altrimenti andiamo oltre. Ma la centrale è tornata in funzione? Cioè, Dal giorno andando? dopo, la centrale è entrata in funzione a ritmo ridotto, ufficialmente. Cioè, non sono riusciti a ripristinare la funzionalità al 100%, però va. Quindi hanno ridotto la produzione di Mana Penny e stanno lavorando per trovare un modo di farla ritornare com'era. Io faccio il mio lavoro Ok. e finita la giornata, vuoi continuare te? E poi dopo ti dico la fine della giornata. No, ti metti subito alla fine della giornata, non c'è niente di interessante al lavoro. Alla fine della giornata vado dal bar con i miei amici, così posso affogare totalmente. E hai anche la scusa per tornare a casa e non parlare con tua moglie. Faccio come Homer, vado in centrale nucleare e poi vado al bar la sera per non parlare con No. Pensavo che Ivan amasse sua moglie, invece soltanto un altro uomo. Lo era fino a ieri No, la l'altro. seen some things. Sto incominciando a Hai capire Homer visto? troppo. Marge, non voglio mentirti, e quindi spero che. Della frase. Terzo e quarto giorno passano in maniera analoga. Anzi, il terzo giorno hai finito i tuoi lavori, Zan ti dà un po' di soldi, ti dà un po', una manciata proprio, con cui sei a posto per i cazzi tuoi. E soprattutto la centrale ti paga il tuo stipendio, che non è niente in confronto a quello che ti ha dato sto banco il nostro amico Berber. Mi sento Vabbè, cioè, se sporco. gli serve per tipo la casa, puoi segnare tipo la quantità che gli Sì, serve per la poi casa, facciamo il però, calcolo cioè. dopo. Mi sento sporco. Alla sera del terzo Ok. giorno sei a casa e, a meno che tu non voglia tornare al bar, devi parlare con tua moglie. Boh, lei mi dice qualcosa, Sì, è dammi un preoccupata. Ti cipetta. dice: Amore, ok, hai preso i soldi, sono contenta, finalmente riusciamo a pagare l'affitto, riusciamo a risolvere i problemi, aiutiamo l'orfanotrofio con questi soldi, ma ti vedo distrutto, cioè, dimmi cosa succede. Ti posso aiutare? No, amore, penso di aver fatto qualcosa di sbagliato a livello morale. Andare... Ah. No, a livello morale, amore. Eh? Non a montare, sai che io non sbaglio mai a montare. Come monta Ivan non monta nessuno, mamma bello. Mia scusate e fu così è l'unico che quella scusato, sera dai, si può fare questa cosa è così che quella sera ah no è vero scusa scusa vai. E penso di aver sbagliato qualcosa a livello morale e penso di aver fatto qualcosa molto brutto, e, però al momento non so quello che succederà. Si siede nel divano. Le faccio un piccolo riassunto di quello che è successo nella giornata. Domanda. Cosa menzioni e cosa tendi a non menzionare? È importante che tu abbondi di dettagli. È importante che abbondo di... vado in ordine. Mi stai chiedendo la cosa peggiore per me, che scusami, cioè la DHD non medicato praticamente. Scusami. Vado in ordine e mi dici sì o no. Ok? Così è più facile? Bene. Grazie. Le persone con cui eri? Sì, le menziono. Benissimo. Lei, nessuna reazione. Il contratto e il fatto... Cioè, menziono tutte le persone e dico poi non so se ti ricordi durante la nostra luna di miele conferenza c'era questo relatore insieme a te e suo marito era con noi. Dread Silas, sì, cavolo, me lo ricordo, certo, sì. Luminare e suo marito era lì con noi, sì. Ah, ma dai, che coincidenza. Sì, menziono tutti quanti, gli viene in mente nulla, cioè zero. Niente, è passato. Cioè, okay. Ovviamente di Adune non si ricordava, cioè non per cattiveria, ma no, idea di chi non sia. Non ci ha parlato sì, granché. Esatto. Marito invece è famoso. E... contratti che non funzionano, sì o no? Sì, le dico che ci sono state delle anomalie... nella centrale, sì, e sono successe parecchie cose, tra cui dei mostri rattili fuori prima del nostro turno, cioè del mio turno. Sui ratti check, in realtà, cioè il cosa dei contratti è già più preoccupata, cioè la vedi proprio che siete entrati nel nucleo, sì o no? No. Ok, quindi non racconti nemmeno della persona dentro il nucleo, non racconti la voce che avete sentito? Al momento no. Ok. E credo che in realtà non abbiate fatto nient'altro di interessante, cioè... Vero? Ragazzi, qualcun altro? Cattivo! Vabbè, l'entità non dischi... cioè, ok, però non ha menzionato del nucleo, però della persona... Ah, il tizio con le corna. Ah. Ah, anche quello. Con le corna. Aiuto. Ok, no, lascia stare quella parte del discorso perché si aprirebbe verso altri orizzonti. Esatto. Ok, niente. Allora, gli hai detto sta cosa qua, il contratto, quindi praticamente lei si fa il film che sei preoccupato perché hai lavorato senza il contratto e per le cose della centrale, ovviamente, le cose etiche della centrale, eccetera. Ti prende le mani e ti dice: l'importante è che non hai avuto a che fare col nucleo, vero? No, amore. Ok, perché è molto pericoloso. Sì, lo so, me l'hai già detto che il nucleo è pericoloso, che non ci devo entrare. Me l'hai già detto. Scusa, non ho retto, scusami. È stato così vero? Oh, mio Dio. E lei ti abbraccia e ti dice: dai, andrà tutto bene, ora troveremo un altro lavoro, quei soldi che hai messo da parte si risolverà tutto, e se hai bisogno di parlare io sono sempre qua, ci sono anche i nostri amici, cioè hai una rete di amicizie, cioè va tutto bene. Non hai fatto niente di male, anche volendo. Non è colpa tua. Sì, sì. Mi sento uno schifoso. No, non glielo dico. Mi sento uno schifoso. Anche la donna trasportata dal tuo amico che poi ti ha pagato un sacco di soldi, non la diciamo. No. Ok, bene. Finisce qua la tua scena. Sono... Mi dispiace di averti picchiato così forte. In depressione. Sì, esatto. Terribile. Ok, mi serve fare Gideon prima di Naya. Ok. Se mi ricordo bene a quello che ci siamo scritti, l'idea è che porti il tizio dal tuo contatto, il tuo contatto ti dà due notizie veloci su quello che sa di, della città, te l'ho scritte, quindi non te le sto a ripetere, o sì, dimmi te. Aspetta, dove me le hai scritte? Su Telegram. Credo di averle scritte, sono pazzo. No, te l'ha scritte, dice il rettore, l'imperatore e un altro paio di persone. Ok, non ho scritto chi sono le altre persone. Ti aveva dato degli indizi, delle piste da seguire per indagare ulteriormente e capire meglio come funzionano le centrali. Ci sei? Ah, ok, sì, pensavo fosse un tuo suggerimento, non che mi arrivasse dal contatto. Pensavo fosse out of character. Ok, sì, ci sono. Ok, e dopo di questo mi devi solo dire cosa vuoi fare. Cioè, se vuoi cercare gli altri 5 con cui sei entrato nella centrale, se vuoi andare direttamente a vedere cosa puoi fare con queste persone, oppure se hai altre idee. Allora, il rettore l'ho incrociato e poi ho visto comunque sul giornale che è entrato nella centrale tutto. Non lo so, magari andrei a vedere se riesco a ficcarmi nell'università in qualche modo. Uso la mia carta studente. Alla fine io sono andato e mi sono diplomato all'università di Ufar. Vale ancora la carta studente? Non è collegata, nel senso è un'altra università, è come... Quindi non me li fanno. No, ma nell'università puoi entrare. Cioè, puoi fare quello che vuoi, nel senso chiunque può entrare e ci sono delle sezioni dove non puoi andare. Ok. Però tipo la biblioteca base puoi entrare liberamente. Sì, direi che provo a cercare magari informazioni sul rettore e sulle guardie che aveva. Erano guardie, ok. Sì, sì, erano guardie imperiali, quindi dell'esercito. Ok, sì, direi che magari faccio un po' di ricerca su come funzionano un po' le cose qui un po' meglio. Ok. Questo... ti occupa più o meno il primo giorno, ti fai un'idea di chi è il rettore, di chi è l'imperatore, di chi sono le guardie, qualcuna delle notizie, qualcuna no, tipo il capo delle guardie hai sentito dire che si chiama Maria Reziari dal nostro Naya e non ci sono libri su di lei, ma ci sono degli articoli di giornale che raccontano le cose che ha fatto, quindi a quanto hai capito è un'immigrata che ha fatto carriera molto in fretta nell'esercito perché è estremamente abile nella caccia ai mostri e in una serie di altri settori importanti per l'esercito. Non te la faccio lunga. Sulle altre persone, Lydia, la receptionist, è una diplomata di non mi ricordo che università, che è la più forte, cioè la più abile del suo corso, la strega più forte del suo corso, quindi è stata assunta dalla centrale come guardia. Le altre persone, sto pensando, niente interessante, sul rettore, sai che è rettore e direttore della centrale, anche lui deve essere un mago di alto livello e a quanto pare ha le mani in pasta un po' ovunque, cioè ha delle amicizie nei posti alti. Ok. Questo è tutto quello che riesci a trovare sui libri, sulle persone. Sul resto in realtà riesci a trovare quello che c'hai nella documentazione che avevo dato, quindi nel documento All Fate is Gone. Non c'è molto più di quello. Direi che ti interrompo qua perché mi serve sapere cosa fa Naya. Ok. Poi ritorno. Naya. Torna a casa, Naya. Ti svegli che sei alla fermata di Lonera. Okay. E sai esattamente come ti svegli, cioè ti svegli in un bagno di sudore, impanicato, eccetera, e stai fissando un punto del treno. Prego. Naya prende le sue cose e scende dal treno un po' disorientato, un po'... Ok. Un po' rincoglionito. Ma mi sono svegliato anche prima. Cioè, ho dormito tutta la tratta. Non ti ti ricordi di aver fatto la tratta? Ah, ok. Ok. Anche perché c'erano dei cambi in mezzo, non hai nessuna memoria di averli fatti. Ok. E lei scende dal treno e si dirige verso casa. Ovviamente okay. Un po' impanicato, disorientato, però va verso casa. Ok, quando arrivi a casa, nel senso saluti i tuoi, eccetera, i tuoi amici non ci sono perché comunque non sapevano quando saresti tornato di preciso, quindi ci sono solo i tuoi. Ti riassumono quello che è successo alla famiglia, cioè la zia Promezia ha preso ed è andata nel suo ennesimo viaggio di archeologia in culo al mondo. Tornerà tra un mese, comunque tra 15-20 giorni, ci vorrà un po'. E i tuoi amici invece sono tutti disponibili, liberi, cioè quando li vuoi andare a prendere vengono. E dimmi tu cosa vuoi fare nei prossimi 3-4 giorni. Allora... l'azienda è andata in un punto specifico dove posso mandare una lettera o... Puoi mandare una lettera, non è in un punto specifico. Dio porco, puttana di merda. Vabbè, no, non mando nessuna lettera a lui. Ok. Il primo giorno Naya manda tre lettere e ti scrivo privato. Vai, perfetto. Allora, intanto che fai sta cosa qua, passo ad Adone. Vai. Smutati. Ci sono. Credo che in realtà noi abbiamo fatto tutto. Sì. Perché tutti quei 4 giorni sai già cosa fai. Sì. E se ora ti arriva una lettera è un conto. Mi puoi dire come reagisci, me lo scrivi in chat. Se non ti arriva una lettera, ritorno da te alla fine. Tanto abbiamo quasi finito, mi manca solo Guido. Sì. Ok, no, è per chiarire che tu non vuoi fare nient'altro. No, l'unica mi avevi detto che dovevo parlare con Silas. Sì, ok, facciamo sta scena qua. Sì, c'hai ragione. Okay. Facciamo sta scena qua. Quando arrivi, cioè quando arrivi alla centrale, sai già cosa è successo, eccetera, eccetera, c'è tuo marito a prenderti, che è preoccupato, come è giusto che sia, è sera. Ti abbraccia subito, ti chiede come stai, ci sono stati dei problemi, ti sei fatto male. Sto a posto, sono vivo e vecchio. Ok. E andiamo diretti a casa? Non mi sembra il caso di... Sì, andiamo a casa, sono stanco. Lui vede che sei distrutto, non ti fa domande. Se tu non gli parli, per stasera non ti chiede niente. A posto. Bene. Giorno dopo, lui di mattina presto si deve alzare e andare al lavoro. Quindi prima di andare... Tu sei in mezzo nel dormiveglia e ti chiede se hai voglia di parlare. Vuoi raccontarmi? Sono stanco, magari stasera. Tu devi andare a lavorare, non voglio raccontarti quello che è successo prima che tu vada a lavoro. Ci risentiamo stasera? Ci risentiamo stasera. Andiamo a cena fuori? No. Allora è sorriso, va bene, andiamo a cena fuori. Ok. Fa lavoro, tu sai cosa fai durante tutto il pomeriggio. Certo, quando ti riviene a prendere hai gli occhi così. No, non è vero, il primo giorno non ancora. Però. No, non ancora, vero, dai, sono normal. Sì, stanco il giusto. Cosa hai fatto oggi? Hai studiato? Sì, ho fatto alcune ricerche in biblioteca. Mi hanno detto che sei andato in biblioteca. Eh sì, hai detto... Cioè, quando usi le mie credenziali per andare in biblioteca mi avvisano. Ah, sì. Immaginavo. Potevi dirmelo. È successo qualcosa alla centrale? Volevi cercare qualcosa... Guarda come uccide Adone in tre... Come uccide Silas in tre, quattro, sei. Subito, istant. Oh, lascia stare. Usciamo a cena. Andiamo a rilassarci. Okay. Sono stanco. Facciamo una bella serata. Seconda serata passa senza che ne parliate. Terza serata, torni a casa con gli occhi così. Ok. Mi vuoi dire cosa c'è che non va? Domanda, piani, ci arriviamo alla quarta serata? Oh. Sì. Ok, allora fa... Oh, no. Ah, tanto hai visto il giornale, eh? Cioè, hai visto le notizie che c'erano sul giornale del... Su Telegram, okay. Se non l'hai già guardate. L'ho già letto, infatti, poi volevo chiederti, però... Boh, vabbè. E poi, cioè, vedo, mi immagino Adonis che si sente la testa e fa: no, ho un gran mal di testa e la ricerca si sta rivelando più faticosa del dovuto. Ti dà un foglio e ti dice: è arrivata questa. Una lettera dalla famiglia Petri, di Lonera. Okay. Il riassunto, lui non l'ha aperta, è un signore, Silas, non è altre persone. Vedi che banalmente Adone si sorprende e fa: ah, Petri. Posta prioritaria, gente da soldi. Ah, ok. Ok, allora a questo punto Adone l'apre, ma l'apre anche davanti a Silas, sì, cioè sì, sì. Questo non ha... Naya ha un modo di... cioè è scritta da Naya, firmata da Naya, ha un modo di scrivere vaghissimamente caotico. Cioè molto... molto... airhead, molto... happy go lucky. Quindi nel suo modo un po' le così... glitter. Sì, esatto, c'ha gli adesivi degli orsetti. Cosa del genere. Devo mandare la foto. E... come dire... il nucleo della questione è... com'è andato il viaggio in treno? Ti è successo qualcosa di strano? E Silas, che sta leggendo la lettera con te, dice: chi è? Perché ti chiede del treno? È un mio nuovo amico di penna, immagino, visto che mi ha scritto una lettera ormai. Ma l'ho conosciuto in centrale. Si chiama Naya Petri, è anche lui un accademico. Devo essere geloso, lo ripeto perché mi sa che non l'hai sentito. No, vedi che lì Adone Rita che fa: no, no, assolutamente non devi essere geloso. Oddio, non so perché ci penso un po' qualche anno fa. Troppo giovane per i miei gusti, poi... dai. Ok, ride, ti dà un colpetto, ti spinge, sì. ti gira un capezzo, ho capito quelle cose che si fanno, no? Scusa, scusa. Ci mettiamo a scopare lì, sì, vabbè. Capito. Perché no? Perché no? No, la povera lettera di ascolta, no, è la tecnica di Adone. Devi girare la lettera, girare la lettera di Naya, così non capta. Esatto. No, no, rigira la frittata e anche Silas. Hai visto? Bene, va bene. L'hai spangata. Te la do per buona. Quarta sera o vado agli altri? Quarta sera, perché io la quarta sera. You know. Torni a casa. Sì. Un gufo. Sì, i capelli tutti sfatti. Sì. Stai di merda, ti dice in maniera gentile. Stai di merda, amore. Cosa ti è successo? Ma di sederti un attimo, Silas. Sì, certo. Vi accomodate nella vostra bella sala, pagata con i fondi governativi. Adone fa così, dice: come puoi ormai aver immaginato, non è stata proprio una giornata tranquilla, quella alla centrale. Ok. Però non posso rivelarti nulla di quello che sia successo. Ok, come mai? Ti hanno fatto firmare un contratto? Vedi che Adone ci pensa un attimo. Dio Cristo. Io pure che dire sta cosa mi esplode. Sarebbe funny, vero? Invincible. No! Are you sure? No, Adone dice... no, la magia che dovrebbe far funzionare i contratti è... non ha funzionato. È una security breach di altissimo livello, l'hai segnalata questa cosa? No. Perché? Perché quello che è successo... credo vada un po' oltre la semplice security breach. Adone, sai che lavoro in una centrale di magia? Ok, ti ho sempre detto che i contratti servono a proteggere prima le persone che... chi si occupa delle centrali. Mm-hmm. Quindi appena non ha funzionato il contratto dovevi farlo presente? C'era qualcuno in segreteria? Sì, c'era qualcuno in segreteria. Credo farò che un reclamo subito. Cioè, no, domani... no, credo. Aspetta. Io non ho fatto un reclamo, ma credo che gli altri l'abbiano fatto. Aspetta, fammi ci ripensare bene. Sì. Hai presente Naya? No. Il tipo che... Ah, il Petri, ok, sì. Il Petri che mi ha scritto. Credo sia andato lui a... Aspetta. Mi puoi dire cosa diceva nella lettera? Mi ripeti un attimo cosa diceva Rox. Dimmi. Digli cosa diceva nella lettera. Come in sostanza, come fosse andato il viaggio in treno. Ok. Aspetta un attimo che devo vedere se... Vabbè, ma è tipo, immaginati una lettera lunga così, dove sì, l'insulto sì, è quello. Cioè, lui ti chiede, come stai? Bla bla bla, stronzate. Vabbè, no, passa a posto. Dice, sì, Naya Petri ha fatto il reclamo, dovrebbe averlo già fatto lui. Snitch. Ok. Quindi non preoccuparti di questo. E però vi hanno fatto visitare comunque la centrale anche senza contratto? Sì. È una cosa pericolosissima. Sì, ma infatti vedo che... Spero che a Falchena non funzioni come succede ad Ottica, perché insomma non mi sembrava proprio una centrale... Come si dice? Mi sembrano tutti un po' dei fancazzisti, sai che... Cioè, fanno le cose un po' a caso. Non... Ah, ma perché nella capitale è pieno di... E per questo ho anche deciso di interrompere momentaneamente le mie ricerche, sai? Dopo essere stato in un ambiente del genere... Dai. Manca di credibilità. Il posto fisso, Sì. Come a Roma ci sono solo fancazzisti, a Berlino pure, immagino. No, come sai io mi occupo personalmente di avere un personale di alto livello e qualificato nella centrale. Non permetterei delle sciocchezze come questa del contratto, non si è mai visto. Lo so, ma infatti so che tu lavori bene, infatti la prossima volta è meglio che vengo direttamente a fare le mie ricerche nella tua disciplina. Esatto. Però ecco, tutto qua amore, niente di cui ti devi preoccupare. Quindi l'articolo sul giornale parlava di questa cosa qua, del... malfunzionamento dei contratti? Sì, credo proprio di sì. Ok. Sai, magari avranno, non lo so, magari hanno cercato di insabbiare la notizia, sai? Sì, anche nella mattinata mi avevano chiesto se potessi mandare una percentuale della nostra produzione ad Oclica per arginare il fatto che avevano dei problemi. E abbiamo firmato, perché comunque la capitale non è che possiamo dirgli no. Però sì, l'avevo trovato strano, pensavo di poterne parlare in un altro momento. Negli ultimi giorni eri sempre strano, eri sempre occupato. Sono contento che non sia niente di grave. Cosa, ti hanno chiesto qualcos'altro anche così, giusto per curiosità? Mi hanno detto che se non riuscivano a ripristinare la corretta attività avrei dovuto presentarmi ad Oclica. Ma a quanto pare ti guarda in basso e dice... Qualcuno ha risolto il problema. Io pelato. E fa... Allora, fine. Da qui in poi la serata diventa una serata normale. L'hai sfangata. Recupero Naya Gideon. Gideon. Scusami, aspetta, domanda Pjanic. Io vorrei mandare comunque una lettera di risposta a... Sì, ci metterà una settimana ad arrivare, perché tu non sei miliardario. E allora che cazzo... La scrivo lo stesso a Rox? Sì. La scrivo a te? No, la scrivi e me la mandi a me. E poi io gliela faccio avere quando è il momento. Quindi dopo questa cosa qua. Ci stiamo avvicinando al finale. Gideon. Allora aspetto a fare la lettera. Fai come vuoi. Cosa... Ah, ok, ti arriva una lettera anche a te da uno dei tuoi contatti. Ci sei, Brian? Scusa, ero mutato. Vai, DW. Ti arriva una lettera da... Cioè, uno dei contatti della rete, eccetera. Sì. Il terzo giorno. Cioè, il secondo di questi due giorni, che però è il terzo che passi ad Oclica. Uno dei tuoi... di questa rete di spie ti viene a portare una lettera che a quanto pare arriva dalla famiglia Petri di Lonera. Sono famosi in tutto il mondo per essere una famiglia, come si dice, vecchia nobiltà. Ok. E... Vuoi leggerla? Vuoi ignorarla? Dimmi tu. Sì, la leggo. Ok, Rox. Dimmi. Digli la cosa. Madonna, allora spero di potermela paraculare perché non ero pronta. Potevo prepararmi? Sì, non l'ho fatto. Nel caso dovessi sapere, quella che abbiamo mandato ad Erendor non arriverà mai. Sì, esatto. Ah, immaginavo. Già. Gliela dico io, se vuoi. Cioè, pensavo ce l'avessi pronta. Vai, sì. No, non ce l'ho pronta, sono una merda. Non ci ho pensato. Ok, tu sei abituato a leggere robe un po' intellettuali, cioè di un certo livello, ma anche avere a che fare con gente un po' impegnata. Questa lettera sembra scritta da un bambino. Cioè, okay. Dai, non è un bambino! Dal punto di vista di Gideon. Ok, va bene. Così ci faremo il culo, vabbè. Sì, e in pratica ti chiede per favore di restituire i campioni che hai preso dalla centrale perché sono molto pericolosi, UV. Cioè, no, un mio contatto però mi ha dato come tramite questa lettera, cioè non sì, è che un tu, okay. A quanto mi ricordo avevi lasciato un modo per contattarti a Naya. Prima di salire. No, Naya aveva lasciato a me un modo per contattarlo. Quindi Rox, che cazzo stiamo parlando a fare? Ma non ti ricordi, Pjanic? Io ce li ho gli indirizzi. No, ve l'ha detto che... No, ho capito cosa vuol dire. La tua lettera viene spedita non a Gideon, ma a sua sorella, quindi pardon. Ok. Colpa tua, non è colpa mia. Ora, la domanda è, c'ha un modo tua sorella per mandarti una lettera d'emergenza? Può farla passare attraverso i contatti. Ok, però arriverà lì. Lei non quando... è... Sì, sì, sì. Direttamente involved nell'organizzazione, ma comunque sa cosa faccio. Come... Esatto. Arriverà il quarto giorno, quindi hai ancora un giorno intero, due giorni interi per fare quello che vuoi. Ok, allora, una cosa su cui sono curioso, e questa è in caso, se vuoi me la puoi scrivere anche nei prossimi giorni, a vedere, perché mi è incuriosito la roba sul giornale, vedere dal punto di vista dell'impero cosa hanno lì nella biblioteca dell'università, cosa pensano effettivamente delle tribù e delle loro divinità, delle loro magie. So che ti aspetti qualcosa di estrema destra, ma in realtà la biblioteca dell'università è liberissima, nel senso chiunque può, cioè ci sono libri di ogni genere e non viene censurato niente. Vengono censurati libri pericolosi in senso tecnico, cioè se c'è un rituale che può provocare l'estinzione della razza umana, quello viene censurato. Le opinioni no, le opinioni sono molto libere alla Zenith. Okay. Per cui in realtà troverai un array di opinioni, alcune chiaramente filo imperiali, alcune invece rivoluzionarie, quindi c'è un po' tutto. E te lo faccio nei prossimi giorni, ricordamelo, riscrivimelo e te lo riassumo. Sì, ma niente di troppo impegnato. Sì, sì, sì. Riassumimelo pure. E questa è un'altra cosa che puoi fare. Dimmi se vuoi fare qualcos'altro, altrimenti hai wrap it up. No, puoi wrappare. Ok, voglio sapere cosa fa Naya negli ultimi due giorni che gli rimangono di questo intervallo. No, della sua vita. Vabbè, va a vedere i suoi amici, Naya va a vedere i suoi amici. Passi diversi giorni insieme ai tuoi amici. Vi divertite e non gli racconti un cazzo di quello che hai fatto alla centrale, o sì, dimmi te? No, gli racconto principalmente di Maria. Ok, ci sta! E cioè, dico, raga, porco Dio, non avete uno idea di chi io abbia incontrato, due, che cazzo faccia? E gli faccio tipo un piccolo riassunto della serata. E Naya la racconta tipo, ah sì, abbiamo fatto bla bla bla, e poi bla bla bla, e ci sono i suoi amici che sono tipo così. Sì, esatto. Proprio come mi aspetto che reagiscano. E... Oh, you never fucking learn. E Naya gli parla della roba del bro code, che cioè non va troppo nei dettagli sulla cosa della centrale, perché è ancora un po' iffy a riguardo. Ok. E dice comunque che la visita alla centrale è stata un po' strana. E qui c'è tipo lui che fissa il vuoto per un paio di secondi e non dice niente. E sta pensando tipo a come riassumere le cose senza... Cioè non è che non vuole mentire, però allo stesso tempo sono successe così tante cose che... Sì, sì, sì, ci sta. E perché a lui interessa raccontare la cosa del bro code e dice, ok, allora, quando sono andato alla centrale c'era questo gruppo di gente e vabbè... sono state prese per sbaglio delle cose. E poi Maria, e poi gli racconta tutta la roba della serata, bla bla bla, fa... E io, cioè, giusto ragazzi, che, cioè, bro code non si sniccia, giusto? Loro sono tipo, bro, non sei entrato troppo nei dettagli, quindi non sanno di cosa stai parlando di preciso, però sono tipo, sì. Se... Ian, gli altri non lo so, Ian è tipo, se stai mettendo a repentaglio la vita di tutte le persone del mondo, forse dovevi snicciare. Quest'uomo ha 28 anni. Lascialo in pace. Conosco gente più grande e peggio, va bene, ecco la qua. Vita vera. Ci sono. Quindi... No. Cosa ho vinto? Niente. E... Comunque sì, la conversazione è questa, cioè loro che ti dicono sei un coglione. Loro e con loro devo dire Ian, gli altri sono tipo, no vabbè il bro code è più importante. Esatto. Ian è l'unico deficiente. Ok. Dimmi se vuoi fare qualcos'altro, se no andiamo avanti. Non so cosa puoi fare perché, capito? Infatti. Ok. E la lettera che arriva a Gideon ti dice brevemente che devi riconsegnare alla centrale i materiali che hai recuperato. Perfetto, la lettera verrà cestinata in mantimento. Sì, esatto, proprio tipo quando ti arriva la pubblicità dei testimoni di Geova. Ora io devo fare una roba. È un virtuosismo. Pure dai soldi ai bambini dell'UNICEF. Cioè, dai, almeno lì ti senti un po' in colpa. Almeno ti senti in colpa. No, esatto, no. Dici, uff. Cioè, a te non ti preoccupa il fatto... Vabbè, fai niente. Quinto giorno. La musica. Sì, quinto giorno. Oh, no, yeah. Ognuno di voi è più o meno nel chill. Ok? Zan sta preparando il suo piano, il suo volo, il suo viaggio verso il sud, verso un posto più carino insieme a Ren. Siete molto carini, state organizzando, vogliamo vedere questo, quello. Adone... Quali posti vogliamo ammazzare? Tipo Monster Hunter. Esatto. È la preparazione dell'uscita. Sì. Adone, sei a casa con Silas. Il clima non è tranquillissimo, però siete nel chill, cioè è un pomeriggio dove avete fatto una conversazione la sera prima e ora, boh, state chiacchierando, siete tranquilli. Ivan, sei a casa dal lavoro, non hai lavoro oggi, è finito il tuo contratto alla centrale, dovrai fare un altro, però per ora puoi anche goderti un giorno di pausa. Erendor, non so se vuoi aver acquistato una casa... Soldi. Non al momento, perché comunque come volevo riacquistare la vecchia tenuta di Faglinghia. Oh, bello, bello. Quindi sei in un albergo nella stessa città. Mm-hmm. Ok, va bene, ti piace come idea? Sì. Benissimo. Gideon, stai facendo ricerche in ancora ad Oclica, se ho capito bene. Quindi sei in una safe house di Oclica, della tua rete. Ok. Chi ho dimenticato? Naya, sei nella tua casa enorme insieme ai tuoi quattro amici e... Naya può avere un cane. Che lei sì, puoi avere un cane. Puoi avere un cane. Can I keep it? E... I tuoi quattro amici e il tuo cane e state nel salone e state nel chill, cioè capito? Quelle giornate in cui voi fra amici studiate ma più che altro cazzeggiate, un bel momento. In tutti questi momenti, contemporaneamente anche se in momenti diversi, I guess, bussano alla vostra porta. Okay. Quello che vedrete aprendo è uguale per tutti, per cui le descrivo rapidamente. Chi va ad aprire tra Zan e Ren? Sei tu. Bazan. Vai tu. Chi va ad aprire tra Adone e Silas? Silas. Non avevo dubbi, l'ho scritto con Silas. Chi a casa di Naya può andare ad aprire solo Naya perché gli altri sono dei cazzo di ospiti e non manderai il cane, quindi va Naya. A casa di... Ivan. Sì, grazie Ivan, non mi veniva il nome. Ce l'ho anche scritto, capito? Volevo ricordarmelo ma non ci riuscivo. A casa di Ivan vai tu o va Thea? Vado io. Perfetto. Mi manca... Erendor sei da solo, quindi vai tu. E a casa di Gideon è una safe house, quindi vai da solo. È una safe house segreta, cioè nessuno sa che tu sia qui. Mm-hmm. Aprendo le porte, quindi qualcuno direttamente, qualcuno da dietro. Con la pistola in mano, proprio da dietro. Sì, come volete. Ci sono 5 persone, con l'armatura dell'impero di Lutes, anche se non siete nell'impero di Lutes. Tutti e cinque hanno una maschera col becco. Tutti e cinque sono armati, e anzi impugnano l'arma. E a ognuno di voi chiedono dov'è la persona in questione, quindi impero di Lutes. Guardia imperiale, scusate. Non abbiamo tempo per le formalità. Suo marito Adona è in casa? Lei è il signor Naya? Lei è il signor Zan? Lei è il signor Ivan? Lei è il signor Gideon? Chi vuole partire? No. Sì. Naya è tipo, sì, sono io. Cioè, non lo dice così contento, tipo un... Beh, sì, oddio. Sono io. Cioè, è tipo... Ok. What? Ora, mi spiace che roviniamo l'effetto, perché dicendolo al primo poi gli altri vanno a cascata, però... Crediamo che lei abbia contratto una malattia pericolosa. Dobbiamo trasportarla fino ad Oclica in modo da poterla curare. Se non viene immediatamente, non è in pericolo solo lei, ma anche tutti i suoi amici e tutte le persone che conosce. Naya, visto i suoi amici, loro sentono sta cosa? Sì, e sono tipo... Pure il cane, tipo... Ma questo è tipo Covid dura vendetta. Sì. Dai! No, dai, non può avere il Covid, l'ho già fatto io. E Naya un attimo... posso prendere... In un'altra situazione le avremmo permesso altre cose. L'impero si occuperà di darle tutto quello che le serve. Al momento deve solo venire con noi, è in fretta. Ma non posso stare qui a Lonera, negli ospedali qui. No. A parte il fatto che non esistono ospedali a Lonera, ti fa notare? Di porco, che cazzo ne... Hai ragione che gli ospedali non esistono già più, scusami. Sono dimenticata io, Rox. Naya se lo ricorda, okay. Va bene. Redactiamo. Vai, rewind. Vai. Non è uno scherzo. È una cosa importante e deve seguirci immediatamente. Devo almeno avvisare i miei, cioè... Lo faremo noi in un secondo momento. La prego di seguirci senza opporre resistenza. Ok. Naya si gira verso i ragazzi, li saluta e dice... Dite a mia zia che volevo parlarle. Il tizio lascia delle... Direi compresse, ok? Delle robe da mangiare, delle caramelle sembrano, ai cinque ragazzi. E ti scorta fuori. Anzi, quando siete fuori... Guardando i capelli, ascoltando la voce, realizzi che è la fucking Maria che è venuta a prenderti. E ti dice, mi spiace, Walker, è una cosa più grande di te. E scopri, in questo momento esatto, una roba che non sapevi, ovvero che l'università di Lonera ha un teleporter, cioè un tizio che un paio di volte al giorno, perché poi muore, può teletrasportare la gente da un punto A a un punto B con un sacco di requisiti eccetera, e viene teletrasportato ad Oclica, quindi ci metti un attimo ad arrivare. Chi vuole essere il secondo? Saranno tutte così le cose. Vai Zan. Zan non può resistenza. Allora no, scusami, resistenza. Nel tuo caso è diverso, nel tuo caso vogliono sia Zan che Ren, vi chiedono entrambi di andare con loro alla centrale. La risposta è la solita, fierce resistenza, non gli frega un cazzo, con questi non ci viene lui. Se non ci seguite morirete, non è una questione, non è una minaccia, è un fatto. Durante la vostra permanenza alla centrale avete contratto, potreste aver contratto una malattia, e se non venite con noi, oltre a mettere in pericolo voi stessi, rischiate di mettere in pericolo tutti. Ren cosa ne pensa? Non sa come reagire. Cioè, è veramente paralizzata, però il suo atteggiamento è di andare con loro. Va bene, dai. Però posso portare la mia arma. I cinque si guardano rapidamente e dicono... Va bene. Te la colla. Andiamo. Non sparare, però. Nel tuo caso ti scortano al posto. Ok, perché comunque okay. Vivete lì vicino. Ok. Chi è il prossimo? Vado io, dai. Io lo guardo. Ah, ho aperto la porta in maniera quasi socchiusa, proprio con la pistola con la mano nella fondina, e chiedo chi è. Guardia imperiale, okay. Non abbiamo tempo per formalità. Erindor può venire con noi. Perché? Durante la sua visita alla centrale rischia di aver contratto una malattia molto grave. Oltre a essere in pericolo di vita, rischia di infettare tutte le persone che incontra, quindi le dobbiamo chiedere di venire con noi. Possiamo darle le cure... Com'è? Dove esattamente? Dove esattamente? Abbiamo creato una struttura apposita nei pressi della cattedrale di Oclica. Non è quella dove è tenuta la... la cos'era? La... la occhio, no, che occhio! Sì, è dove è tenuta la principessa consorte. C'è qualche correlazione? È solo il polo dove ci sono i migliori esperti di medicina e magia curativa del mondo. Solo. Sono un po' arroganti questi, oltretutto vengono dal nord, quindi nei tuoi confronti hanno anche dell'astio. Saranno presenti anche tutti gli altri lavoratori della centrale? Esatto, vi metteremo in quarantena per un breve periodo e appena superato questo periodo vi potremo rilasciare e potrete continuare con le vostre vite. Se invece presentate i sintomi, cercheremo in tutti i modi di guarirvi. Io non... Come? Santo cielo, perché sto pensando a tutte le persone che voglio evitare, specie il mio ex datore di lavoro. Non ci saranno conseguenze legali, anche se è in fuga le faremo un'amnistia per tutti i suoi crimini. Che crimini? Io ho semplicemente lasciato il mio lavoro. Non è importante, non avrà alcuna conseguenza e al termine del periodo ti lasceremo andare. La lasceremo andare da lei, giustamente. Posso prepararmi oppure no? Purtroppo no. Ogni secondo che passa potrebbe essere fatale. Hai tutti al tuo inventario. Provo a squadrarlo un attimo pensando di provare a spararli e fuggire, però... Sono in 5. Ah, va bene, come l'ho detto. Va bene. Ti prendono e anche nel tuo caso... Defeated mail leave. Mi spiace. E anche nel tuo caso hanno predisposto un teleporter di qualche genere che ti... fare comparire al posto giusto. Anche tu, Rox, anche tu, Naya, avrai tutto il tuo inventario. A scelta tra Ivan allora, e bene. Gideon e Adadone, chi vuole andare? Vado io, dai. Stessa scena degli altri, ti dicono guardia imperiale, lei è in pericolo, dobbiamo guarirla dalla malattia che potrebbe aver contratto durante la visita alla centrale. Gli dico che non sono Gideon e non so di chi stanno parlando. Vede, questo genere di atteggiamento può essere pericoloso non solo per noi, ma anche per tutte le altre persone che frequenta. E ingannarci non è una cosa possibile. Abbiamo dati molto precisi su tutte le persone che mettono piede nell'impero. Buon per voi, ma avete la persona sbagliata e faccio per chiudere la porta. Il tizio mette il piede per bloccarti e dice: non ci obblighi a usare la forza, noi vogliamo veramente aiutarla e basta. Non ci interessa la sua rete di spie o... le sue questioni private. Vogliamo guarirla e poi rimandarla dove vuole. Sure. Spingo ancora la porta. Mi sa che sto laggando, mi sentite? Sì, è bellissimo, perché è fighissimo. Fai bla bla bla. È la voce un po' robotica. Ok, dovrei essermi ripreso. Sì. Ok, chiudi la porta. Senti una magia, una forma di alchimia che annienta la porta. I 5 entrano nella casa. Buongiorno. La safe house cos'è? È un edificio qualunque, cioè un... come si dice? Oddio, quelle case sotterranee, le... seminterrato. Un seminterrato di un palazzo di Oclica, in una delle zone più malfamate. Hai una serie di mobili, cioè proprio come i covi delle Brigate Rosse, cioè c'hai un sacco di oggetti necessari e non c'hai molte cose interessanti dentro, non c'hai molte armi, non c'hai molte cose del genere. Va bene. La ringrazio. I 5 ti prendono, uno di loro ricostruisce la porta come era prima, e comunque questi gli piace lasciare pulito. E anche a te ti trasportano alla cattedrale, che non è troppo lontana nel tuo caso. Ivan o Adone? Vai Adone. Ivan. No, Adone. Vai Ivan. Ok, qua è un'altra scena, una scena un po' diversa. Silas risponde senza farti parlare. Adone è in casa, gli chiedo. Dipende dal motivo per cui lo cercate. Il soldato. Temiamo che durante la sua visita del 27 sia stato contagiato da una malattia estremamente pericolosa. Abbiamo l'ordine di prelevarlo e metterlo in quarantena, per il suo bene e per il vostro. Una malattia mortale, non so niente di questa storia. Lo vedi che sta preparando a combattere. Madonna, mamma mia, lo amo. I cinque imbracciano le armi e dicono: non abbiamo tempo. Sia voi che suo marito siete in pericolo. Se non ci permettete di mettere in sicurezza l'area, abbiamo il permesso di usare la forza. Visto che siamo qui per salvarvi, non obbligateci a fare qualcosa che nessuno vuole. Cosa vuoi fare? Aspetta, Silas. Appunto, arrivo io, mi avvicino alla porta. Ha un manapenny di... Stavo per spoilerare. Ha un manapenny di falchena in mano. Ok, ho capito. Lo guardo un attimo, lo guardo tipo... Vorrei sapere su quali base fondate queste accuse. In che modo dovrei aver contratto una malattia? Sarebbero informazioni riservate. Visto che il signore è un direttore della centrale, lei è contagiato, potenzialmente contagiato, vi riveliamo in via eccezionale che... Oddio, non mi ricordo come si chiama, dammi un secondo. Lidia? Non mi hai detto il cognome? Lidia Smissum è morta per una malattia della quale non conosciamo i dettagli. No, Queen. Ok, Adone è sorpreso e dice: e quindi immagino che anche tutto il resto della centrale sotto quarantena. Abbiamo messo sotto quarantena tutti quelli che sono potenzialmente contagiati e voi siete gli unici 6 ospiti che ci sono stati in quel giorno. Adone subito chiede: ha a che fare con Fredliga? Cioè, ha a che fare con la principessa? Ha una maschera, quindi non vedi la sua espressione. Però ci mette 3-4 secondi a risponderti: no. Ok, Adone è vagamente più preoccupato in questo momento e poi dice: e mettiamo caso che io venga con voi, cosa ne sarebbe di mio marito? Se lei manifesta i sintomi nei prossimi giorni, metteremo anche lui in quarantena, altrimenti non vuol dire che non ha contratto la malattia e non è in pericolo. A questo punto guardo un attimo Silas e dico: potete lasciarci un momento? No, non abbiamo tempo da perdere. Purtroppo ogni secondo potrebbe essere l'ultimo. Esatto. Trascino un attimo Silas come per dire: è un secondo, ci vuole solo un minuto. Le diamo 5 secondi. Solo perché lui è un direttore e sappiamo che non tenterà di finire. Mamma mia, vabbè. Adone dice: d'accordo. Allora Adone lo guarda un attimo e dice: spero vada tutto bene. Poi gli dà un bacio. Ti abbraccia. Oh. Quell'altro è tipo: Dio cane, come ve lo devo dire che siete infettati? Cioè, sono dei coglioni questi. Eppure quello. Vabbè. Questo sì. È davvero il COVID. No, è che c'ha ragione. Però qualsiasi tipo di malattia è: hanno scopato, hanno limonato. Cioè, se aveva qualche cosa, ormai gliel'ho già passata. Ottimo argomento. Questo non c'era nei racconti precedenti. Ora c'era. Non ci siamo fatti l'endovena, però. Ok. Ti trasportano a una tua conoscenza. Non fortissimo. Cioè, lo conosci, ma non bene. Dal venerabile Azmo Flaur, ex rettore. Vecchio, sì, un grande, vecchio di merda. Nonno. Sì, lui è proprio un vecchio maledetto. Cioè... No, scusatemi, perché mi portano da un vecchio? E il vecchio che ha un bastone per aiutarsi, cioè un filo di Parkinson. Signor rettore. Sbatte il bastone 3 volte per terra senza dire una parola e venite teletrasportati a Oclica. Questa è una magia di livello molto alto, quindi fate i due conti. Ad Oclica tutti quelli teletrasportati si ritrovano in un'area intorno alla chiesa. Per una serie di motivi li hanno costituiti nella chiesa, ste cose qua, e ci sono una cosa come un centinaio di guardie dell'impero, quindi un po' di più del solito. E... ah no, cazzo, manca Ivan, scusami. Stavo dimenticando qualcosa. Vai! Hai aperto la porta e ci sono 5 guardie. Ho aperto la porta, ci sono 5 guardie, io faccio... prendetemi. Il tizio, che è un povero Cristo, è tipo... No, ha frainteso, No. Deve venire con ciao, noi. Amore. Ciao, amore. No, ma... Ti amo. Vabbè, cura delle piante per me. Ti spieghiamo man mano. Potresti avere una malattia. Vabbè, è stato facile. No. Loro non indagheranno su questa cosa qua. Più stanno lì tutti quanti. Sì, madonna, non me l'aspettavo, bello. Si sente in colpa. Sta morendo dentro. Non so che canzone sia, ma... arrestati, ho fatto una cosa terribile. No. Ho mentito a mia moglie, arrestatemi, vi prego. Piuttosto che qua in galera. Allora, vi portano in questo luogo. Ivan, tu lo conosci bene, perché è il luogo dove vai quando ti fai del male, perché è l'unico ospedale gratuito, diciamo. Faccio del male, tipo autoflagellazione. No, tipo, beh, quando al lavoro... ti in colpa, no? Quindi... quando al lavoro subisci delle ferite, ti hai in questo posto a farti guarire. E chissà perché sono sul braccio. È uguale, guarda. Ok, venite non smistati, perché in realtà ci sono dei saloni. E ovviamente manca Lidia, perché a qualcuno di voi l'hanno detto. E insieme a voi ci sono numerose persone, tutti della centrale, molti sono addirittura col camice ancora addosso, con i vestiti da guardie, e sono tutti in un brutto clima, cioè stanno bisbigliando, stanno litigando, stanno commentando. C'è un miliardo di guardie tutto intorno, e una manciata di sacerdoti, e tutti loro indossano queste maschere col becco. Vi incontrate anche fra di voi, cioè se volete interagire fra di voi potete. Vi do 5 minuti e poi vi dico vado avanti. Io in realtà non vorrei interagire con nessuno. Benissimo. Scusa se... Tanto niente. Giusto così. Associati. È venuto anche Ren, vero? Sì, siete venuti insieme e state insieme fondamentalmente, siete... E allora le do tipo una gomitata. Gli amici del lavoro! La prende sul ridere. Dice, un giorno qualunque, un martedì qualunque. No, vabbè, ma non sarà niente, ti occupare, adesso la sistemiamo. Non so quanto sono lontana da Zanzan, ma se lo sento, lo guardo così, mi giro a guardarlo. No, aspetta. Ci sono anche Rodvold, la piccola persona. C'è Batu è il... qual è il termine? Il Noshunar. E vi colpisce la presenza di una persona che un po' conoscete e un po' no. Cosa cazzo vuol dire sta frase? Lo capirete appena trovo l'immagine. Mostraci la fregna. No, non è la fregna. La metto in Fateless. L'ho fatta io, quindi non è tanto bella. E... wow, ok. Ma è? No, niente, vai. Lidia è morta, cioè quindi non ci può essere, se è quello che hai detto. No, non ho detto Lidia. Ah, ok. Ah, è vero, manca anche Ludolf. En passant. Giusto. Manca anche Ludolf. Ludolf non c'è, è andato via. E questo qualcuno di voi dovrebbe dire... questo è un problema. Perché se c'è uno che sicuramente l'ha contratta la malattia, è lui. Sorvoliamo. Bravo, Gideon. Ok. Io non dico niente perché ancora non credo che sia una malattia e penso ci abbiano solo beccati perché abbiamo visto il coso della centrale. Ma pure io. Cos'è il coso che vediamo, quello che hai messo in fece? Una persona, cos'è? Il corpo è femminile, ha un seno. Delle proporzioni più femminili che maschili, è seduta per terra, sta fumando e ha questo aspetto, ovvero ha tipo un ingranaggio d'ottone sulla fronte, la pelle della faccia è solo questa e il resto è non c'è. C'ha dei meccanismi, delle parti di bronzo sotto e degli ingranaggi che si collegano alle mascelle e si muovono quando apre la bocca. Il È una corpo. cosa normale, scusami. No, non è una cosa normale. Il resto del corpo, da sotto i vestiti, ha dei. Come si dice? Delle spike, comunque degli oggetti che non dovrebbero esserci in un corpo. Ed è seduta in un angolo a fumare. Ed è una malata, quindi cioè, sarebbe quello che ci dovrebbero far mostrare cosa succede allo stadio avanzato di una malattia, della malattia. Non vi hanno detto niente, vi hanno lasciato lì in questo stato. Ah, ok. A quanto Vado a pare, chiederle dove sono le sigarette. Vado spaccio per Ren fare. ti tiene il polso e ti dice: ma quella è K.L. Ah, ma la buona. What the Ah. fuck? Cosa Yeah. è successo? Cosa? Lo chiede anche Ren. Quindi siete insieme, vi sentite, potete parlare, potete interagire. Adone andrebbe da Naya. Ok. Interagite, Sì, fate quello che Naya volete. ti saluti. Ah, ciao, anche tu qui. Sì, Naya, anch'io qui. Immagino ti abbiano contattato per lasciamo Lei è finire tipo contattato, sì, cioè mi hanno praticamente prelevato la casa e portato qua perché a quanto pare possiamo essere contagiosi, qualcosa di simile, non ho capito esattamente, non è che mi sia stato spiegato molto. Ci sono le guardie intorno così lei li può fissare male. Sì, c'è un mucchio di guardie, cioè c'è veramente Lei ha l'esercito. imparato a fissare male la gente in questo momento e lo fa. Esatto. Vi interrompo solo per dire che vi ricordate Devin Corvi, quello con i capelli neri un po' più lunghi? Vede Sì. Erindor e gli No, urla io lo dall'altro sapevo lato io che della stanza: nell'angolo proprio figlio apposta. di puttana! Secco, cioè proprio. Eccoci qua, lo sapevo. Mi hai tradito e ora mi hai pure infettato, lo so che sei stato tu. Io? Al massimo Sì. è il contrario, io sono venuto in visita, non volevo In visita a portarci i tuoi germi. Al Tu e massimo sono tuoi. stati quelli là del sud, al massimo, più sud. Può essere. Lei è del sud. No, siete più o meno del sud uguale. Più o meno. Ok. Può essere, ma Zanzan non non finisce è qua. felice di questa Allora, lo so affermazione. che ce l'hai con me, e va bene, lo capisco. Ognuno cercava di trarre vantaggio dall'altro, e che ci puoi fare? È così la vita. Ti ho offerto un alloggio, un amico. Così mi ringrazi, così. Non ho parole. Lo so, sono una persona brutta. Ora sì, per favore, la chiudiamo qui. Sì, probabilmente abbiamo dei Siamo problemi amici. più grandi. Bravo. Visto com'è ridotta È Kael, già abbastanza imbarazzante questa situazione. ti dice: hai visto? Lo sentite tutti, quindi siete. Hai visto com'è ridotta Kael? Ma è la malattia tanto citata da quelle guardie che ci hanno portato così tanto gentilmente qui. Sì, in realtà lei è quella a cui è andata bene. Sembra che ora sia Ah, è un andata atto. bene. Cioè, È ha andata bene. superato la malattia senza morire. Rimarrà così per sempre, immagino. Parrebbe di sì. Le apparecchiature che rimettono a posto il corpo non funzionano, a quanto pare. Ma Sfigurata quindi il per suo sempre. corpo si è lentamente ha sostituito le parti organiche con parti meccaniche, queste strane cose Naya si dottore. unisce ad ascoltare il discorso. Sì, anche. Sì, e non hai visto quello che è successo a Lydia? Cosa è Peggio di successo? così? Molto. Hai visto che non è qua. Tanto per cominciare. Sì. La sua presenza era piuttosto. Già. Ieri praticamente stava male già da un po'. Aveva contratto qualche. Sembrava febbre, qualcosa del genere. Secchezza delle fauci, affaticamento, insonnia, si lamentava anche al lavoro. È andata all'ospedale per vedere se la potessero guarire e mentre era in coda è esplosa. Ah, E esplosa come? la sua pelle è letteralmente saltata in aria, ha preso fuoco. Questa polvere gialla, giallognola, bronzea, sta sparata in tutte le direzioni. E di lei è rimasto solo uno scheletro che si muoveva solo, sembrava un automa, una cosa stranissima. scheletro era ancora fatto di osso, se qualcosa. No, no, no, completamente di metallo. Si muoveva molto lentamente e abbiamo chiamato le... cioè, non abbiamo, io non c'ero. Hanno chiamato le forze dell'ordine per vedere cosa stesse succedendo, dei medici per controllarla. E dopo un po' che era così, ha iniziato ad attaccare i presenti. Ne ha squartati 5 prima che riuscissero a fermarla e l'hanno... beh, diciamo che non c'è stato il funerale. Immagino. E c'è qualcuno, qualcuno oltre a lei e a... come si chiama? Kaylin? Kael. Kael, adesso c'è qualcun altro che ha mostrato sintomi? Non lo sappiamo. In questo momento, una persona a caso, guarda in camera. Quella persona è Ren, che non dice niente, però guarda in camera. Dio porco. Tipo Jim di The Office. Sì, esatto, esatto. Aspetta, ho laggato, chi è che guarda chi? Ren, l'amica di Zan Zan. Che allora, in effetti, stai iniziando a esplodere? Negli ultimi giorni aveva insonnia, aveva fatica a respirare, era stanca. No, ma è il ciclo. Apprezzo quando ste cagate piacciono. Nessuno dice niente. Anche io esplodo. No, non vorrebbe dire. La principessa Fredriga ha mostrato i stessi sintomi. A chi lo chiedi in generale? No, sì, lo dico lì. Ma io invece che ero in conversazione col tizio volevo chiedergli. No, eravamo lì col tizio tutti. Sì, siete tutti lì. Noi parlavamo, loro si erano accodati. Sì, siete intorno. Ma siamo tutti lì. Cioè, siete... hai presente le gabbie di prigionia dei prigionieri dell'Africa che vogliono venire in Italia? Ecco, un posto un po' così. Se qualcuno ha delle domande può farle, però è l'esempio giusto. No, Adone fa la domanda all'NPC, ecco io. Ok, quindi a Devin Corvi. Devin Corvi è primo che... Fredriga non è il tipo di persona della quale si può sapere qualcosa. Però è l'unica che non era nella centrale, quindi... insomma, a meno che non lo sapevamo, però... No, non credo ci fosse. Cioè, era proprio da un'altra parte quando... E il malore ce l'ha avuto prima di queste cose. Anche Lydia ha avuto... cioè, quello che ha avuto dopo. Quindi non lo so, non ho idea. Non si è più vista, in effetti, però... Fredriga. Cioè, da quando è stata male che non ha più fatto apparizioni in pubblico. E il rettore, scusami, è venuto anche lui e tutta la sua combricola... Loro non li sono qui mica tra noi. Gli scoppia un fusibile nel cervello a Devin. Inizia a bestemmiare, proprio a incazzarsi, a tirare le craniate sul muro, sulle sbarre. E dice: quello stronzo non è venuto. Ovvio che lui può stare fuori. Ovvio che lui non è in pericolo. Ma porca puttana. Io mi guardo attorno. C'è altro degno di nota? Cioè, tutti gli NPC che abbiamo conosciuto? Allora, sì. Te li dico tutti quelli che ci sono e tu mi dici se vi dicono qualcosa. Carl Dons è quello biondo con gli occhiali da sole. È in un angolo, sta piangendo, cioè sta singhiozzando molto virilmente. Ren è con voi. Devin Corvi sta parlando con voi. Kael è deformata. Kael è morta, quindi no. Batu è lo Shunar. È in un angolo, anche lui è preso malissimo. Però sta venerando qualche divinità pagana dei suoi posti. Rodvold è in un angolo ed è bello contento, sta facendo amicizia con le guardie. Nota che era in the world. Beatrix è questa ragazza che in genere è insieme a Rodvold, che l'avete vista un paio di volte, non abbiamo l'immagine, che è quella distrutta dalla vita con le occhiaie, gli occhiali, i capelli spanati, ok. Lei è sdraiata per terra, di faccia per terra così. Bene, ottimo. Sì, questo è il suo modo di gestire la questione. E ci siete voi... E in realtà basta. C'era dell'altro personale alla centrale, però siete solo voi. Molto tutte conveniente. Guardie... Cioè, questo non lo chiede Naya, però ci sono tutte le guardie di Maria e Maria. anche che mancano. Allora, le guardie sono nella fila sono... di gente. Esatto, sono insieme agli altri. Non li puoi riconoscere perché hanno tutti la maschera, sono tutti uguali a parte per i capelli. Quindi gli unici due mancanti sono il rettore e il nostro tizio con le corna, sostanzialmente. E Lidia perché è morta, sì. Allora. Sì, sì, sì. Naya chiede a, a Devin. Devin o Kevin? Devin. Devin con la D. Devin, ok. Di ripetere un attimo, cioè, lei dice... Ho capito bene, non ci sono le apparecchiature per curare qui? No, no, ci sono, è che non hanno alcun effetto su questa malattia, se è quello che stai chiedendo. Oh, oh. E Naya pensa fra sé, sai, non so se provare a dare un'occhiata, se è il caso. Com'è? Quanto sembra socievole a da 1 a 10? Com'è che era? Kayle. Sembra più scazzata che furiosa o pericolosa, però ha parti del corpo meccaniche, quindi la gente le sta lontana per vari motivi. Ok. Se non vuole fare niente, Naya si avvicina. Io voglio chiedere a Devin se l'infezione è partita da un punto sulla nostra KL lì, giusto? È partita, si è iniziata a sviluppare da qualche punto in particolare su KL oppure... Ti fa avvicinare? Ti sussurra all'orecchio. Io credo dal ratto nel laboratorio, ma non l'ho detto a nessuno. Quello esploso. Ok, vabbè. Tant'è che a essere contagiati sono, guarda caso, Lidia, che è quello che l'ha fatto scoppiare, Kayel, che era lì a fianco e la puoi vedere. Poi c'era la Berber, che è morta prima di poter manifestare i sintomi. E l'ultima persona che era lì guarda Ren e non dice nient'altro. Io guardo degli occhiate veloci, non voglio appunto dare troppo nell'occhio su quello che mi ha detto, però penso al fatto che anche noi abbiamo avuto incontri ravvicinati con ratti e... Noi sudiamo. Io sudo, però cerco di mantenere una poker face abbastanza. In fondo io ero lontano, quello che è andato in faccia alla gente era quel zanzarico. Non gli dici niente dei ratti che avete attaccato voi? Ovviamente no. Ok, benissimo. Tengo la straight face più possibile e mi autorassicuro tra me e me dicendo io non ero così. Finché siamo in questa posizione, se qualcuno vuol fare qualcosa ditemelo, altrimenti andiamo a Naya che va a fare amicizia con Kayel. Io vorrei quindi dopo. Ok. No, niente, sto lì con loro. Benissimo. Allora, quindi Zan e Naya vanno a parlare con Kayel. Ren rimane indietro. Cerca un posto dove sedersi, okay. Si mette a fissare nel vuoto. E pensivo, vista la notizia. Vero? Stiamo parlando di giorni o di ore? E Kayel è... sì. Kayel è proprio sdraiata per terra, cioè non c'ha un care in the world. E quindi se non dite niente, lei si limita a guardarvi. Lei si avvicina lei si avvicina e proprio gli arrivi lì, figata! Dice, ciao, mi hanno detto che ti chiami Kayel, io sono Naya, piacere. Può tirarle un pugno in faccia, per favore? Fuck up, stai... Tira con la sigaretta e non ti risponde. E io mi avvicino, ma è metà davvero? Posso, tipo? Se è infetto, rischi di rimanerci secco, Zan. Nei a scuotta, perché è alto 4 km, quindi ha proprio il pobre. E le chiede se le fa male. Non sento più niente. Tra l'altro credo di non aver neanche più bisogno di mangiare o bere. Ma... è successo per caso? Ce la farete quello. La nicotina serve sempre. Sì, e sì. È successo per caso? Oppure hanno provato ad aiutarti in qualche... maniera e questo è un risultato. Finché ci sono loro, credo che sia meglio non parlarne. E ritira la sigaretta in maniera molto misteriosa. Naya chiede se... Vai. Naya chiede se può... fare... dobbiamo trovare un nome migliore di vibe check... alla roba della sua pelle, perché se ogni volta che dico... C'ha un nome, mi chiedeva solo vibe check, cazzo. Vibe check è la passiva di Expeller. Ok, vuoi sapere se c'ha delle maledizioni? Sì, glielo chiedo prima se posso controllare prima di farlo. Divertiti. Dai, lo fa. Allora, maledizione non è una parola specifica, ok? Okay. Nel senso, è una vibe. Esatto. Quindi non è che ti risponde secco in genere questa roba qua. Ti dice se c'è la presenza di qualcosa che può essere. Ok. In questo caso è nella end più sul no che sul sì, ma c'è qualcosa. Ok. Cioè, una persona alla quale crescono i denti sotto il corpo è sicuramente maledetta 100%. Questa cosa qua è un 15-20%. Ti guarda e dice, quindi? Lei dice, fa, riesco a vedere una possibilità che sia qualcosa, cioè, c'è qualcosa che non è, lei si ferma prima di dire che c'è qualcosa che non va, perché sì. Mentre... dice, riesco a sentire una percentuale di possibile maledizione o comunque qualcosa di questo tipo. Mentre dici scusa, ma mi fa molto ridere la frase. Riesco a sentire una percentuale di maledizione. Sì, no, non mi venivano le frasi. Non mi veniva la frase. Sei parzialmente maledetta. Ci sta. Sei del lavoro, mi dici. Allora io vi odio. Si toglie. Ha una camicia, quella che indossava per lavoro. La apre. Vedete che sotto il corpo non è né maschile né femminile, è meccanico. Ok, bene. Quindi proprio... ecco. Voglio anch'io. Hai visto? Non potrà mai allattare, poverina. Devo dire sta cagata per contratto, scusate. Mamma mia. Però transizione... figata. Idrogeno. Sì, sì, figata. A gratis, che non è male. E... quindi idealmente il suo partner dei sogni è un meccanico. Proprio così. La parte destra è normale. La parte sinistra ha un cerchio. Un sigillo, diciamo, chiamiamolo col suo nome, così. Di pelle. Ah. Stampato sopra questa cosa meccanica. È super strano, super uncanny. Cioè, sembra che qualcuno ce l'abbia appiccicato sopra, però si muove insieme a lei. Ok. Il sigillo non è quello a cui state pensando voi, è un altro. No. Che addio. No. Prego. Lei dice qualcosa, cioè lo mostra così e basta? Dice, deve essere questo. E in effetti quella tua percezione del 15-20% lì sopra è del 100. E quello che voglio... quello che voglio dire è che la roba in fronte non è una maledizione. Sì. E Naya le chiede, ma questo ti è venuto prima, dopo, cioè... Si riveste intanto. Sì. No, ce l'ho da ragazza. Cioè, ce l'ho da quando ero ragazza. Che cos'è? Cioè, come hai fatto a... diciamo che... come sei finita con questo? Ho fatto quello che avete fatto voi l'altro giorno. In un altro posto. Lei è sbianca. Hai ammazzato qualcuno dentro la centrale. Lei è sbianca ancora di più! È tipo... qualcosa del genere, sì. Ah, ok. Naya gli chiede, cosa sai di quello che è successo con noi alla centrale? Quello che mi avete raccontato. Siete entrati dove non dovevate perché io devo aver fatto del casino. I contratti sono una mia responsabilità. Erano una mia responsabilità, non credo che lavorerò mai più. E a quanto pare qualcosa nel processo di creazione del contratto non ha funzionato. Per cui siete potuti entrare nel nucleo e fare quello che avete fatto. Trovo veramente difficile che questa situazione non sia collegata. Sa se la sua situazione è permanente? O se è... Il simbolo o la pelle? La malattia strana, il metallo. Per Lydia è stato diverso. Grazie a questo sigillo credo di averla interrotta in qualche modo. Ok. Per rispondere alla tua prossima domanda, no, non si può replicare. Ma se gli stacchiamo il braccio ancora umano e gli facciamo ricrescere nella macchinetta. È soltanto il sigillo, non è il braccio. No, sì, sì, c'è una carta di un braccio Naya... umano ancora. Naya le chiede in modo più pacato, cioè più educato possibile, dice: se non ti dispiace, mi potresti guidare attraverso quello che ti è successo esattamente quando è avvenuto il cambiamento? La malattia, dici? Sì. Per i primi 2-3 giorni, sia io che Lydia abbiamo accusato fatica, stanchezza, insonnia. Ciao Naya e Adone, voi avete avuto 4 giorni di insonnia. Per Adone non è strano, perché si bomba di farmaci e quindi non c'è caso. No, infatti. Ci tenevo a dirlo. E stanchezza e cose del genere. Nel caso di Lydia è stato molto più drammatico. Cioè, nel giro di un giorno era già a pezzi, mentre io invece ci ho messo 3 giorni a raggiungere quel livello di stanchezza che l'ha portata ad andare... letterale. Ok. E nel mio caso, poco dopo è iniziata questa cosa dell'aumento di peso, cioè ho sentito proprio che il mio corpo era diventato più pesante e a un certo punto ho preso fuoco e il sigillo è intervenuto. Si sta piano piano accendendo una lampadina. Anche Anaya. È fioca, è debole, però si sta accendendo. Lentamente virulenta. Ricorda qualcosa. Ho preso fuoco e il sigillo è intervenuto impedendo che bruciassi più di così, però la mia faccia e gran parte del mio corpo è andato. C'era una polvere quando ho preso fuoco e di nuovo sempre il sigillo l'ha fatta sparire. È stato strano, è durato un secondo, non sono in grado di dirti altro. Nel caso di Lydia, credo che qualcuno vi abbia già raccontato. Prendendo appunti. Lei non era presente nella stanza con Ren? No. Sì. Sì, lei, Ren, okay. Kae, Lydia e basta. No, Devin no, era Devin. No, Devin ha portato via le palle subito. Troppo. Naya chiede se lei invece ha sentito il bisogno di aggredire le persone, come è successo con la povera Lydia. Onestamente no. Cioè, quando mi hanno trasportata qua di forza, mentre ero già deformata, un pochino. Naya annuisce comprensivamente. Onesto, ci sta. Ok. Era già successo qualcosa del genere in precedenza? Nella centrale. Non che io sappia, ti dice. Lydia era quella che forse sapeva di più, però sarà difficile chiederglielo. Il rettore sa sicuramente cosa è successo nell'altro incidente. Bisognerebbe chiederlo al rettore, che come vedete non è qua. Sono tutti molto contenti di questa cosa. Sì. E Naya le chiede se ha qualche teoria. Per il momento preferisco aspettare. Naya le chiede del sigillo che ha e le dice: in che senso che hai fatto la stessa cosa che avevamo fatto noi quando eri ragazza? In che centrale? Singida. E sfruttando un cavillo nel contratto magico sono riuscita a scoprire i segreti della... Rox. I segreti della centrale. In pratica ho aperto le porte con un bastone, quindi non le ho aperte io. E Naya fa proprio Io dico che Adone comunque a questo punto si è avvicinato, cioè sappiatelo, okay. C'è anche lì Adone. Naya le chiede un po' sottovoce, un po' bashful, e fa: quali sono state le conseguenze per quella volta? Sono sotto contratto, se ti rivelo dell'altro mi uccidono. Oddio, della stazione in cui sono potrebbe anche essere un buon modo per risolverla. Quelle sono cose che noi... quelle cose... Io mi ricordo che sappiamo qualcosa, ma non so se... Allora, sì... È meta o... Se... No, nessuno... Non voglio! Naya non lo sa, ma Singida è l'altra centrale a cui è successo casino quando... E lo sanno! Questa signorina qua, Ivan e Zan... Non Adone, non Naya. No. Ok. Però a me è venuto aspetta, anche... Zan lo sa! Zan era presente quando Keyel ha spiegato che... Cazzo, è successa un'altra roba simile a Singida. Erano presenti solo Zan e Ivan quando ha detto sta cosa qua. Ok. Cioè, non è che sapete cosa è successo, eh? Ora... No, sappiamo solo che è successa una cosa simile e basta. Accordi tu questa tizia qua. Ok. Il tempo esatto che è successo, non voglio dire. Ah, è vero che erano comatose davanti alla porta. Ma quanti anni ha Keyel? Keyel è proprio KL. Cioè sono le sue iniziali. Non so se l'avevo detto prima. 29. Ok. I miei appunti però sono... quel cazzo di articolo. Se volete chiedere qualcos'altro ditemelo, perché io l'ultima cosa che faccio è chiudere la sessione con col cliffhanger. Boh, io credo a posto così per... Se qualcuno deve parlare con uno qualunque degli NPC o degli altri personaggi, le vostre teorie, le vostre cagate. Io sono curioso del cliffhanger. Sì. No, aspetta. Vabbè. Condivido con Naya e con Adora a sto punto, che sono lì accanto a me. Che in realtà la tipa che aveva ammazzato era pesante, era calda ed era fatta di metallo all'interno. Cosa? Adora ti guarda. Ad Adora manca un altro dettaglio. Cioè che tu hai ammazzato una tipa. Esatto, no, ma anche a Naya, infatti è tipo... Tu cosa? Quindi non ti riferivi? No, l'ho ammazzata io, gli ho sparato. Sì. Testa. Perché? Aveva ucciso la maggior parte delle persone nel mio villaggio. Non lei direttamente, sua madre, probabilmente. No, adesso ho bisogno di un recap un secondo. Cioè, non so abbastanza di questa storia per dare un giudizio obiettivo. E abbiamo altri problemi di cui occuparci. Guarda, perché potete non parlarne? Non è stato un omicidio a sangue freddo, è stato una vendetta abbastanza calcolata. No, calcolata. Vabbè. Una vendetta. Premeditato! Cioè, certo che è stato un omicidio a sangue freddo, cazzo! Si dice proprio così. No, cioè. Al mio paese quelli a sangue freddo sono un'altra cosa. Vabbè. Tipo! No, elabora, sono curioso a questo punto. Studio l'utilizzo delle parole, quindi elabora. Avevo una motivazione per ammazzarla. L'assenza di motivazione solitamente è l'omicidio a sangue freddo. No, stop le telefonate. Non è vero. È il contrario. È l'opinione di Zan, tipo, veramente metterti a discutere con Zan. No. Ok, Adon dice: d'accordo. Oh, siamo d'accordo che veniamo da due paesi diversi. E il mio è migliore. Oh. No, vabbè. Lo dice con questo tono. Però oggettivamente c'è altro cosa a cui pensare. E nel caso dice: al di là che hai ucciso una persona, sei... Però poi ci pensa un attimo. Dice: ok, è esplosa, ma come si propaga questa malattia oltre all'esplosione delle persone? E guarda anche un po' che gli è. Se ti interessa, probabilmente era la solita persona che era al centro del nucleo. Non so come sia possibile, però sembravano essere la solita persona. Stai dicendo che cosa? La persona lì... E qua Naya sussurra. Stai dicendo che la persona che hai ucciso e quella che era già al centro del nucleo sono la stessa persona? Sì, sì, e quando sono tornati indietro per entrare nel nucleo era morta anche... La seconda, me l'avevo già portata fuori dalla centrale, quindi, boh, gemelli e Zoffa tipo spallucci. Zanzan, due... cosa cazzo stai dicendo? Ho bisogno di un riassunto perché sto facendo fatica a seguire. E a questo punto Adonessa dice cosa? Ma vaffanculo! E quindi dice, noi abbiamo trovato una persona appesa, l'abbiamo tolta, le è esplosa la testa. Tu in che momento hai portato un'altra persona? Dopo? Dopo. Ok, dopo. Hai portato questa persona? Dopo. L'hai rimessa su? E l'altra persona? L'ho uccisa in un'altra stanza. L'ho portata fuori. Sono tornato dentro. E c'era di nuovo la solita persona appesa. Con un buco in fronte. Ok. E va dentro e dice, sì, fin qua checks out. Dai, si dice checks out. No, non lo dice veramente da dove, dice... Vabbè, però l'equivalente è tipo... Ma è quando è andato... Zanzan è andato... Cioè, si è separato... Non c'era... Non c'era... Iacopo, allora, facciamo chiarezza. Perché sto cercando di creare la timeline. Perché Ica giustamente non sa la storia. Esatto, voi... no, io gli sto dando la mia storia. Sì, mancano dei pezzi, ovviamente. Io in verità ci sono, quindi spiega gli altri, io capisco. Vabbè, voi... tu sei più bravo, noi no. Esatto. Voi Dio. Avete sparato, cioè, Maschera di Ferro ha sparato in testa a... E fin qui me lo ricordavo. Sa come si chiama? È un nome temporaneo, La Mummia. Mi piace come va nome? Va bene. Ok. Va bene. La Mummia cade per terra. E fin qui ci sei. Voi uscite dalla stanza, la chiudete. Dopo arriva Zanzan. Okay? Abbiamo strappato il braccio al tizio, successo, bla bla bla. Il tizio Zanzan è andato, è tornato. Aspetta, stai fermo. Zanzan ritorna alla porta. Insieme al rettore, no. Rettore dopo. No, prima. Il rettore dopo. Ok. Zanzan va a sparare alla tipa. La va a buttare nell'inceneritore. No, sì, di nuovo, no, che cazzo dico? No. Spara la tipa nel cassonetto, giusto. Poi sono arrivati Naya e... Perché lei spara la tipa nel cassonetto? No, non ho capito. No, l'ha sparato... È un'altra. Le ha sparato nella stanza e poi l'ha portata nel cassonetto per disfarsi del corpo. Esatto. Okay. A quel punto... Voi due siete entrati nella stanza. Esatto. E avete cambiato di posizione la tipa agli occhi di Zan. Alla tipa col buco in testa. Cioè, alla... Okay. Sì. Alla mummia. Poi, il rettore è entrato nella stanza con Zan e ha chiesto a Zan di bruciare la mummia. E Zan ha sostituito la mummia con la tipa nel cassonetto. Sì. Fine della storia. Però la tipa era in un'altra stanza, devo solo capire questa cosa, che quando l'ha uccisa... Kae, che non era quella crocifissa, era in un'altra stanza. Era nella stanza con Ratto. Quella che è esplosa. Kae, quella che è esplosa. Quella che è esplosa è Lydia. Ah no, ok, scusate, my bad. Questa qua è quella a cui Zan ha sparato in testa. Ma quella a cui ha sparato in testa Zan non era anche lei calda e pesante? Sì. No. E non era Lydia. Era un'altra persona. Non era Lydia. No. E è un'altra persona che a quanto pare era lì prima, cioè insieme a Lydia. Avuto tempo, sì, esatto. Di non avrebbe avuto tempo di contare la cosa, no, in no, teoria. Infatti. Però era già di metallo ed era particolarmente calda. E questa tipa lavorava alla centrale? Sì. Era sì. Lì? Cioè, lo dovreste chiedere a qualcuno che lavora alla centrale. I dettagli. No, vabbè, ma se Zan la vede, cioè nel senso, vedi se una... No, Zan lo sa, Zan lo sapeva, perché gliel'avano... Okay. Sì, è vero, gliel'avevano detto prima. Sì, scusa. Sì. No, lavorava alla centrale. Ok. Ok, quindi fino ad adesso abbiamo due persone abbiamo un totale di 4 persone infette, escludendo te, e due di queste 4 sono... Mi elenchi quali sono ammalate. No, scusa, mi ha appena detto. No, no, Lidia. Allora, sì, Lidia. Che è morta. Kiel. Si è disformata. Beatrix. Letizia... No. Beatrix non credo sia malata. Cioè, no, se la è, erano... non lo sapete. Avete detto, allora, avete detto che c'erano 4 persone nella stanza quando è esploso il ratto. Lidia. Kae, che è questa qua. Kiel. E manca la quarta, che non è Darwin. Cioè, non è Darwin. Chi è la quarta? Ren. Ren. Ok, perfetto. Ok, e adesso, appunto, Adone dice... No, scusatemi, sono 3 persone su 4 che hanno contratto la malattia. Si gira verso Ren. Si gira a guardare Ren. Ren ti guarda non benissimo. Snitch. Si girare con gli altri. E dice, d'accordo, abbiamo un tasso di mortalità del, qual è la percentuale, 75%? Sì. Bene. Si gira verso Danzan e dice, tu non lo so. Io non ero lì quando il ragazzo è esploso. Non è una allora, sono entrato allora, che era già successo. Però non ho neanche toccato il ratto, te l'ha. Kae aveva vero. Esploso, scusa, come cazzo l'hai toccato? Con delle pinze. Kae però aveva contratto Aspetta, no, raccontala. Non l'hai detto sto dettaglio. Dai, è tipo adesso voglio sentire un attimo che cazzo hai fatto. No, perché dopo aver ucciso la tipa mi hanno chiesto se potevo intanto prendere il suo posto come nella centrale, perché gli serviva un lavoratore, e ho accettato. E il primo lavoro è stato quello di liberarmi del ratto di esploso, solo che non lo volevo sto cazzare, perché non era bello. E quindi l'ho preso tipo con delle mezze pinze e l'abbiamo trascinato fino al cassonetto. Però il cassonetto fuori dalla centrale. Yes. Tu è questa così... cosa forse dirla a qualcuno. Questo biohazard incredibile in un cassonetto tranquillo. Ho parlato con i tipi della centrale e loro mi hanno detto che è quello che dovevo fare. Io ho fatto quello che me lo avete detto. C'è Yel che sta guardando in una direzione tipo... Vabbè. Ma non ha le prove, nessuno crederebbe a un berber. D'accordo. Bene, quindi... Bene, Naya siamo tutti verso... Ah, scusami. Siamo tutti fottuti, credo. Naya ricorda ad Adone dei topic contro cui hanno combattuto. Io ho una domanda lì. Io non mi ricordo il combattimento. Che cazzo è successo? Sono esplosi anche quelli? No. Ok. Te la faccio brevissima. Sì, le avete, 3 su 4 li avete uccisi, il quarto l'avete buttato dentro un tombino, che è quello che poi è andato a esplodere dentro la centrale. No. Nel caso non aveste collegato i puntini finora, ci ho pensato io. Ecco, volevo questo era appunto, quello allora che... 3 non sono esplosi. E il quando 4... li avete uccisi, i 3, non era... Cioè, il quarto, Zan è sicuro che era completamente di metallo. Ok, sì, gli avevamo analizzato. Ci avevano fatto l'elettroshock. Che cazzo sì, è? A parte quello. Sì, esatto, sparavano fulmini. Gli altri 3, qualcuno di voi li aveva aperti per vedere come erano dentro. Comunque dalle ferite si vedeva che avevano dei pezzetti di osso che erano stati metallizzati. Ma per la maggior parte, o comunque una buona percentuale, le ossa erano normali. Ah, guarda voi, incuriosoni, cosa è successo. Sei tu! Lo so. Okay. Naya viene verso di te e ti dice, hai ricevuto la mia lettera? Che lettera? Io ignoro. Naya fissa il vuoto un attimo. È tipo, la lettera in cui ti chiedevo se potevi riportare... E qua sussurra, i resti di topo. E fa così... Visto che siamo in una stazione, digli a chi l'hai dati, dai. Fregatene. chi li hai dati? Cosa? Di a chi li hai dati i pezzi di topo? Non dirlo, Biano. No. Ah, no, Naya ti dice tutto il resto. Sentito? Naya ti dice dove sono i non pezzi sono affari di topo? Tuo. Sono affari super affari miei, ti dice non Naya. Non è vero mai. Indica Naya così. Ragazzino... Non sono affari miei, ma sono affari di tutti noi. Vai via, lascia in pace, sì. Dio santo. Allora, Bondella, guarda questi per qua, il bene di tutti, vengono... dimmi solo dove sono andati quei cazzo di pezzi di topo, per favore. Non voglio niente, non mi interessa nulla, voglio soltanto sistemare le cose che abbiamo sbagliato, per favore. Io non so niente. Porco Dio. Non so se hai notato, ma se... ma... e indica che Yel, porco Dio, ce ne farò imparare il suo nome, è messa così a causa di uno di quei topi. Io non ci tengo. Problema a suo, è Roswell. No, è problema nostro. Nostro. Io continuo. Tre topi. Allora, possiamo andare avanti così a continuare, ma io faccio proprio poker face incredibile. Dai, ma io quello ve lo ricordo. Quella ha lavorato con me, mi fa. Beh. È un buon momento per ricordartelo. No, lui lavorava per la mafia, insert. Non vedere la mafia. Corona nera. Corona nera. Corona ah, vieni proprio nera. Così a dire. Lo dice anche la tu, lavori, no. Anche tu, sì, ciao. Sì. Ma io occasionalmente. Forzare sul fatto che anche lui lavorava. Naya si gira verso Zanzan e gli dice: Zanzan, senti, so che hai fatto delle cose discutibili, però ti prego, io devo assolutamente capire dove sono quegli altri pezzi di topi, così possiamo essere meno in colpa e con più possibilità di sopravvivere. Ti prego, chiedigli dove cazzo sono quei pezzi di topi. L'ultima volta stavamo lavorando sempre per la solita agenzia e se il ricettatore è il solito lo conosco anche io, probabilmente. Hai dato non è il solito. Hai dato del possibile biohazard da qualcuno? No, bugiardari. Hai dato questo possibile biohazard a qualcuno? Stai dicendo che stiamo possibilmente mettendo in pericolo ancora più gente di quanta già non abbiamo fatto? Finché il rettore non è fuori, io so poco. No, vabbè. E il rettore, scusate, allora arrivò il comunismo però con... E il rettore, allora... e le foibe? Naya non conosce la violenza, però tira fuori il suo grimorio e inizia a picchiarlo col grimorio. No, dimmi non dove? Si fa così e lo picchio io per me. Ma tu non sai puoi rispondere, no. Perché... Vabbè. Ok, sono. Ah, io imparo. Oh, ma smettete, qua è seria la cosa. C'è una esattamente persona... per quello che ti sto chiedendo. Sta facendo il serio. Si aggiunge anche a Tone, perché ormai, porco Dio. Se volevi i soldi, bastava lavorare per i tipi della centrale. Ah, sì, ma quanto ti hanno pagato? Sacca con. Non so neanche quanti sono, ma abbastanza. Ti fa una stima. Non te ne sarei mica portati dietro, aspetta. Come no? Come no? L'altra sacca, il fucile. Io lo guardo estraniato cercando di cambiare il discorso. No, non è vero, non si è portato un sacco di soldi. Okay. Mi rifiuto di fare questa cosa. Va bene. Che dal culo te li tira fuori. C'è un sacco di soldi col dollaro proprio. Guarda, se li metto in pila, arrivano fino qua e fa tipo una zona sopra la sua testa. Ah, sì? E sì. Io che... Vabbè, mi sono venduto praticamente l'anima per fare questa cosa. Cioè, tu ammazzi una persona a caso dentro una zona, ti assumo e ti pagano pure. Tanto. Naya, Adone si avvicina a te. Il momento giusto nel posto giusto. E dice, so che è un momento pessimo, ma ho ricevuto la tua lettera. E ti avevo anche risposto, ma credo che non ti arriverà la risposta. Cioè, siamo qua. Tipo, suppongo che era a casa mia. Questa non è casa mia. Certo. Questo per dire... Abbiamo condiviso il sogno. lo dici qui così davanti a tutti. Ormai che cazzo se ne frega. A me fa solo ma in realtà lei adesso è ancora concentrato sul topo, cioè. Io me la sono svignata proprio. Dio cane, Naya, non hai neanche una cazzo di... Ti porto dietro Tanzana, discute dei pagamenti così. E allora quando vede che i due se ne vanno, Adone viene da te, siamo solo noi due così. Io devo andare, ok. Mentre parlate solo voi due, Naya e Adone, siete dietro una recinzione, ok? Una recinzione che serve a tenervi fuori, cioè evitare che usciate senza controllo, cioè c'è un punto, un solo ingresso, diciamo, che al momento è chiuso. E mentre parlate, lo sguardo drives off e vi concentrate su un punto della recinzione ed entrambi vedete la stessa cosa. No, ok, Adone lo fissa e dice: lo vedi anche tu, vero? Sì. Ok, bene, bene, bene, ottimo. Bene? Beh, conferma il fatto che io non sia pazzo. Does it? O meglio, Naya ti dice: oppure conferma il fatto che lo siamo entrambi. Cosa che preferisco, essere da solo. Scusami, mi piace la compagnia. Ascolta, lascia stare i miei discorsi. Volevo solo dirti che, vabbè, nella lettera te lo spiegavo un po' meglio, ma per me non è strano fare quel tipo di sogni. Quello che è strano, però, e là gli chiedi altro? Beh, tipo, cioè, non sa cosa dirti. Sì, è una cosa che mi succede fin da piccolo. Nella lettera te lo spiegavo meglio. Vuoi che te lo spieghi adesso? Non lo so. Andiamo avanti. Quello che non mi è ancora mai capitato, però, è di condividere questi sogni con qualcuno. Beh, neanche a me quello di sicuro. Cosa che ha detto? Anche a me di sicuro, cioè, non è mai successo niente di tutto ciò. Interessante. E hai iniziato anche tu a notare il sigillo? No, aspetta. Aspetta un secondo. Hai iniziato anche tu a notare ovunque quello, ok. Annuisce. Bene. Non ho... Aspetta, ma ci penso. In verità ho scoperto qualcosa al riguardo. Cosa? Si guarda un attimo attorno. Quanta gente c'è che ci sta guardando? Boh, Kiel è di fianco a voi perché non vi siete allontanati. Zan ed Erindor stanno chiacchierando in un angolo. Non so cosa stanno facendo Ivan e Gideon. Gli altri membri della centrale sono in un gruppetto che stanno parlando, ma io... cioè, di altre cose. Vai. Io sto un po' prestando l'orecchio alle varie conversazioni, ma aspetto, non mi scopro. Sei quasi al centro dell'area, quindi. Sì. Ivan? Le mie... Ah, scusa, vai. No, per sapere... Io sono in un angolo... distrutto? Più che altro sono distrutto, perché io non credo nella religione, non credo nelle maledizioni, non credo in queste cose, ma mi sento maledetto da quei soldi che ho preso, dalle bugie che ho detto a mia moglie. Terribile. Cosa ho fatto? Io amo Ivan. Cosa ho fatto? Zan passa. Quindi, la casa, com'è andata? Ma vaffanculo! Vaffanculo! Dove ti soldi? Cosa volevi da me? Per maledetti soldi! Per timore. Diavolo, i soldi non erano maledetti. Mettiamolo in chiaro, i soldi non erano maledetti. Li ho ricevuti mai maledetti. Dopo. Li ho ricevuti dopo, esatto. Gli cresce un po' a casa. Okay. Non presto attenzione agli altri, basta. Credo che tutti dobbiamo staccare più o meno, giusto? Non so, ditemi. In verità sì, no. Abbastanza. Ok. Ne abbiamo almeno due che devono staccare, mi bastano. Va bene. Quindi vi faccio fare l'ultima interaction Adone Naya, al limite poi potete farlo dopo, e vi faccio... In verità Adone ce l'ha le sue robe sul taccuino? Sì, sì, c'è tutto l'inventario, sì. Ok, allora vedi che Adone tira fuori il taccuino, e ti scrive una cosa che adesso... Ok, vabbè, allora se vi fate i cazzi vostri racconto la scena, certo, finale. Perfetto, vai. E io, più che altro, io volevo chiedere un attimo a Gideon la stessa cosa del topo, se non è un problema. Ah sì, vai. Interagite pure. Lo vedo. Troia, quanto è insistente, esatto. Questa cosa. Fatti i cazzi tuoi, tu vai a morire in un angolo. No, Naya non te lo direbbe mai. Vai a pisciarti addosso. No, vabbè. Naya si avvicinò verso a Gideon, cioè lo riconosce, noi siamo tutti un po' particolari, quindi lo riconosce e ti dice: ciao, sono Naya, non so se hai ricevuto la lettera che ti ho mandato. Gideon. Brian. Sorry, sono stacchissimo. Zonautato. Ripeti, vai, sorry. Ripeti. C'è Naya che ti si avvicina e si presenta e ti chiede se hai ricevuto la lettera che ti ha mandato. Quella scritta da un ragazzino? Mamma mia. Naya è tipo... La lettera in cui ti chiedo per favore di riportarmi i resti del topo che... Ah, quindi era tua. Possibilmente collegati a... Ah, sì, l'ho ignorata. Mamma mia. Naya si toglie gli occhiali che non ha. Ed è tipo... Sapresti dire forse per favore, cortesemente, dove sono adesso quei pezzi di topo? Oddio, out of character. Cosa ne avevo fatto, Bianic? Ce li ho ancora in inventario, non se li sono presi. Se non li hai dati a qualcuno, sì, puoi scegliere tu adesso. Facciamo che li ho dati su al tizio con le corna, anche quelli da portare in università. Benissimo! Okay. Di nuovo, dai, sprediamolo sto virus, dai. C'è Naya che bestemmia per la prima volta. Che... No, non l'ho detto, cos'è che mi hai chiesto esattamente? Che fine hanno fatto i pezzi del topo. Ah. E che possono essere collegati a quello che sta succedendo e quindi sono biohazard. Sì, di sicuro. Guardo da un'altra parte intanto come se la conversazione fosse finita. Proprio sto ragazzino di merda. Naya se ne va ed è tipo, Yana aveva ragione. Oh, comunque, dopo queste... Qualcosa detto a Naya si bullismo. Facciamo che vi lascio uno spazio all'interno di... Cioè, tra questo momento e quello che vi sto per dire, in cui in realtà potete interagire ancora. Però questo è per dirvi dove inizierà la prossima sessione. Vai. E non ha funzionato lo skip, porco Dio. Ok. Finalmente arriva all'interno di questo luogo il gran sacerdote, il vescovo di Oclica. Ha un vestito sacrale, pieno di decorazioni d'oro, con dei motivi triangolari, roba del genere. Ha persino un bastone di Asclepio, quelle stronzate lì un po' mezze magiche, mezze medicinali. E dice: voglio tranquillizzarvi tutti. Ho visto cos'è successo alla vostra amica, collega, conoscente Lidia di persona. Ero lì quando la tragedia l'ha colpita. Ma sono certo che riusciremo ad arginare la malattia, come abbiamo già fatto, e riusciremo finalmente a guarirvi. E ritornerete a breve dalle vostre famiglie e alle vostre attività. Non ci saranno altre conseguenze. Vi chiediamo solo di collaborare. Ora, per la benedizione di oggi, alza il dito, casta una Jubilee, se vi interessa la spell, che è una spell AOE, ognuno di voi recupera un botto di vita, eccetera, eccetera. E a mano che casta questa bellissima spell, un'aura gialla, che è quella di luce che avvolge ogni teurgia, lo circonda e circonda ciascuno di voi. Quando ha finito di castare la magia, poggia il bastone a terra, vi dà la benedizione e l'aura non è cessata. Questo genere di magia dovrebbe terminare dopo un po'. Ma non lo fa. Anzi, si fa più intensa. L'individuo, il vostro vescovo, inizia a brillare di luce propria, quindi diventa proprio una specie di stella, una folgorante, diciamo. E, sul più bello, quando ormai la benedizione è finita, quando ormai se ne può andare. E mi si è inchiodata la camera. Un attimo solo. Ok, scusatemi. Tornato. Scusatemi, mi sentite? Sei Sì. ritornato. Ok. Quando la musica si è stoppata? Fuck. Datemi solo un secondo e poi abbiamo finito. Quando la luce raggiunge l'apice, il momento più brillante, il momento più maestoso, il suo corpo inizia a bruciare. E da una Io stella di luce. mi avvicino lievemente a Naya e chiedo: da voi i preti fanno così di solito? Naya Ma ti prima la ignora. ignori e poi Ok. dopo vai così. Naya ti ignora. Opportunista. Il gentile vescovo brucia, i suoi vestiti si carbonizzano, la sua pelle inizia a sciogliersi, rivelando sotto di essa uno scheletro di bronzo. E una nube di polvere investe l'aria. Voi siete dietro la recinzione, quindi la polvere non arriva a voi, ma arriva a tutte le fottutissime guardie, travolgendole. Alcune hanno la maschera, alcune no. E dopo un secondo, la luce fa, come dice, fa scomparire, fa disperdere questa polvere, e rimane solo uno scheletro pulitissimo, meccanico, maestoso, che inizia a sbranare tutti i soldati presenti. Ci fermiamo qua. Wow. Quindi i preti Porco non fanno Dio. così di solito. I Preti No, non fanno così direi di solito. Questa benedizione sembra poco Dato che c'erano i funzionante. sintomi, avevi detto solo che Adone e compagnia avevano questi sintomi, oppure anche No, i erano già nostri passati i personaggi? giorni della quarantena. Sono No, passati 4 giorni, la gente dava i sintomi entro i 3 giorni, quella che è durata di più. Poi non abbiamo avuto contatto col topo esploso. Allora, mettiamola così, chi vuole andare può andare, così non vi tengo ostaggio se siete stanchi, e se invece volete stare a parlare sono qua. Sì, ci ripeti un Ok, attimo le sorry, tempistiche? domani devo andare in ufficio. Sì, ciao, Ciao! buonanotte. Perché Ciao, ciao. questo è il quinto giorno dopo che noi, cioè, Sì, alla centrale lo consideriamo il giorno 1? allora facciamo il calcolo. Il giorno della centrale è il 27 settembre, che rimarrà nella storia, eccetera, eccetera. Sono passati 4 giorni, quindi è il 1° ottobre. E vi chiamano, cioè il 1° ottobre è quando esplode la tipa, e questo è il pomeriggio del 1° ottobre, quindi dopo che è esplosa la tipa hanno subito contattato voi d'urgenza. Ok, no, ma questo è il quinto giorno dopo che siamo andati via dalla centrale. Sì, scusa. Ok. 27 Sì. 30, settembre ne ha 30? Sì. 30 giorni con aprile, giugno, settembre. Sì, Sì, 30. ok, 27, 1, 2, Il 3. quinto giorno. Sì. Cioè, se contiamo il giorno della centrale, è quinto, se no è il quarto. Scusa Sì, la contiamo il matematica. giorno della centrale. Ok, quindi è il quinto, sì. Quindi sono tutti esplosi il giorno, il quinto giorno? È esplosa Lydia il quinto giorno. Kiel non è esplosa, cioè è esplosa Sì, parzialmente, Sì. e a quanto pare questo è esploso adesso. Sì, quindi vuol dire che, cioè, il fatto che abbiamo già passato la quarantena non vuol dire un Ma cazzo. soprattutto che questo qua, se l'ha presa oggi, perché non ha visto. Appunto. Perché ha detto che c'era anche era presente quando è esploso Lidia. Quindi lui ci ha messo un giorno. 6 ore. Dio. Porco Dio, Pjanic, se mi fai succedere qualcosa a Sylas, ti giuro che ti ammazzo. Ica, perché guardi così la Patesti. cam? Io, Pjanic, ti giuro. Prossima sessione cominciamo col combattimento, che dovete. Ma siamo potati dall'arami. Dalla. Dalle sbarre, cos'era? Vero. Usiamo Ah, certo. Erindor come scudo umano. Posso Ah. dire, mi piace come idea. Ma provo. Forse in voi non sarebbe il caso, però vabbè. Tanto è un mafioso. No, scherzo. No, non è vero quello. Che È il Tanto. goon, com'è quel meme? Sì. il mob. Con il cappello, la mitraglia. Sì, è la forma di T praticamente. Va bene, io devo staccare che ciao, uguale. Non sono nella mia dimora, quindi ciao. Ciao, buonanotte. Ciao ragazzi. Vabbè, ciao. Ciao. Sono felice che siamo rimasti noi tre. Lo sapevo che lo dicevi. Vabbè. Come è andato oggi? Frate, bomba! Mi fa ridere che ti hai detto no, sessione breve, siamo comunque mezzanotte e un quarto. No, sessione breve, la sessione, è stata un'ora di individuale. Ah, vabbè, sì. Sì, sì. Rox, teorie. Perché la teoria di Adone è di imprimersi col fuoco il sigillo adesso. Lascia perdere le teorie, sto pensando al fatto che Naya non abbia mai fatto violenza fisica su nessuno, quindi non sapeva neanche come... Era tipo... Voglio provocare il dolore per la prima volta a qualcuno. Che storia, Meccio. Minchia, però ci sta col cazzo che... Cioè... Bene. Allora, io dico le mie cose. Io amo Silas e poverino, non si meritava che gli mentissi. Però cazzo, se dicevo roba rischiava di esplodere lui. Sì, not ideal. Cioè, non ho troppi rimpianti al riguardo. Quindi... Però dai, porco Dio, che era pronto a minar le mani. Cucciolo. Piani, ci parli nella descrizione, non dovevi dire delle tette. Dovevo dire delle... Perché? Delle tette. Così. Non di Silas. Non ho capito di chi stai parlando. No, di Kiel, no. Del seno. Ah, no. No, ah, di cosa stai parlando? No, stavo parlando del contatto di Erintor. Ah. Dovevi dire la... size, così almeno non lo so. Ma non ha detto niente Arindor, quindi o glielo... No, ma ci sta. Allora, io non lo conosco personalmente, quindi non posso dire, ma Arindor lo voglio veramente vedere morto. Cioè, non sto scherzando, raga. Io, Eddie, voglio vedere Arindor morto come personaggio, lo odio. Vabbè, ma ci sta, cioè nel senso, ha ragione. No, ma lo apprezzo, sono i personaggi così, e va benissimo, uno dall'altro coppella, dall'altro non vedrò di vederti soffrire, non ti meriti niente. Però vabbè. È che effettivamente ero tipo, adesso gli faccio dire la verità, però ero tipo, come? Non farebbe male a qualcuno, cioè non estruccerebbe in formazione, sarebbe tipo, dimmi tutto quello che sai o ti uccido, sarebbe tipo... Scusate, prendo dell'acqua perché sto morendo. Dimmelo, perché non mi dici... Sì, guarda, per un attimo ci ho pensato e ho detto, too much. Questo è cattivo, muori. La tua famiglia l'ha fatto per secoli. Ha capito, be the change you want to see. È vero. No? Povero Naya. Che porco. Voglio proprio vedere dove andiamo a parare dopo questa sessione. Da nessuna parte. Chi è che indossava la maschera delle guardie di Anic? Maria no. Davvero? Ciao. No. Rox, ti dico quello, ti scrivo quello che ti dice... Sì, no, non ti avevo risposto perché non mi sembrava il caso, cioè, perché saremmo passati per un monologo di mezz'ora e... Sì, infatti, no, ma hai fatto bene. Fatto ti scrivo quello che scrive Adone. Possiamo farlo ora. E aspetta un attimo che lo scrivo e poi faccio copia e incolla, sì. Perché oggettivamente Adone te l'ha scritto. Naya che si è impegnato così tanto è proprio... E poi gli ridono in faccia, è proprio... Ma il bro code. Il bro code. Che porco. I suoi amici come stanno? Cioè, sto qua se lo sono visti portare via così... Bene è un'altra cosa. Porco Dio, raga, devo scrivere una... Devo contattare, mando un mio fottuto coniglio. Comunque vi ho mandato ad entrambi quello che ha scritto Adone sul suo taccuino. Se volete. Scemo chi legge. Adesso Pianis mi dice: no, hai cambiato la storia, dobbiamo rifare la sessione. Porco dio. No, hai fatto bene. Sì, non è cambiata la trama che dovevo darvi, quindi. Bene. Sì, non ho dovuto retconnare nulla. Ok. Adonne ti fa leggere questo messaggio.